Venerdì 8 giugno 2007, i Wuming, nell'ambito delle tre serate delle culture non allineate, presentano il loro ultimo libro al CSO al Molino di Lugano. Registrazione a cura di Progetto Radio Scatola Nera. Vabbè, io do il benvenuto a Federico e Roberto, che fanno parte, che sono dei Wuming, e che hanno accettato di venire in questo trittico del Molino, che noi abbiamo chiamato Culture Non Allineate, che è cominciato venerdì scorso con la serata dove c'era John Zerzan. E voilà, continuiamo stasera con loro, che ci presentano la loro ultima fatica, che si chiama Manituana, che io non ho ancora avuto il piacere né di comprare, né di scaricare, né di leggere, ma rimedierò da domani o anche da stasera. Buonasera a tutti. Voilà, come dite voi qua. Prima facciamo vedere il trailer e poi comincio a parlare io. Al mattino poteva sentire la terra respirare. A mezzogiorno sentiva l'erba crescere. La sera vedeva dove i venti vanno a riposare. Molte cose invisibili per Molly Brent erano limpide, chiare come una calligrafia. A prua si apriva un labirinto di isole, canali e tronchi galleggianti. La sua gente chiamava quel posto Manituana, il giardino del grande spirito. E bastava un'occhiata per cogliere il senso del nome. Ovunque, acqua, alberi, terra e luce. Una storia che attraversa l'Atlantico, larga come una valle, fluente come un fiume, all'inizio della rivoluzione che generò l'America. Una storia dalla parte sbagliata della storia, quando tutto era ancora possibile. Questo è il trailer che abbiamo realizzato poche settimane prima dell'uscita del romanzo, che, come c'è scritto lì, è uscito a marzo, sono due mesi che è nelle librerie in Italia, e si può già trarre un primo bilancio, diciamo così, dell'impatto che ha avuto, però questo più avanti nella serata. Adesso si può spendere qualche parola introduttiva per dire di cosa si tratta, perché magari non tutti qui sanno chi sono e sanno cos'è questo romanzo. Dunque, noi, per dirla molto brevemente, siamo un collettivo di autori, un atelier dedicato alla narrazione, non soltanto alla letteratura, ma alla narrazione con ogni mezzo necessario, diciamo noi. Quindi utilizziamo diversi mezzi, diversi media, diversi linguaggi, questo fin dalla nostra preistoria, che si colloca dentro un progetto culturale che ha attraversato l'Europa negli anni 90, che si chiamava il progetto Luther Blissett. Noi per un buon quinquennio abbiamo fatto parte di quel progetto. Il nostro ultimo contributo a quel progetto fu un romanzo uscito nel 99 che si chiamava Q, che è il nostro esordio letterario, diciamo così. Ci siamo costituiti come collettivo proprio basandoci sul lavoro che avevamo fatto per Q. Siamo nati con questa formula Wuming, che significa anonimo oppure cinque nomi in cinese, nel gennaio del 2000, e questo è il nostro ottavo anno di attività come Wuming. Abbiamo scritto diversi libri, abbiamo scritto una sceneggiatura per un film, Lavorare con lentezza, abbiamo collaborato con altre realtà collettive e singolari che usavano ogni tipo di linguaggio, anche per Manituana stiamo collaborando con musicisti, con illustratori, con performer, poeti, e ogni sorta di figura attiva nelle arti. Perché dico che per Manituana stiamo collaborando? Perché Manituana non è solo un romanzo. Manituana è un progetto transmediale, è un po' la sintesi per il momento di tutti i percorsi che noi abbiamo fatto in tutti questi anni. La sfida è quella di costruire un libro che vada oltre se stesso, che non sia contenuto solo nelle pagine del libro, che possa essere letto, fruito con piacere, curiosità, con passione, anche soltanto nelle pagine del libro, ma poi per chi volesse andare oltre ci sono tante narrazioni che pullulano, che proliferano, che sbocciano per ogni dove, con diversi mezzi. Noi ci abbiamo messo 3 anni a scrivere Manituana, lo abbiamo cominciato alla fine del 2003. Durante la stesura del libro noi abbiamo anche prodotto dei racconti di avvicinamento. Questi racconti di avvicinamento uscivano sul nostro sito in formato PDF, scaricabili gratuitamente, ogni tot mesi, diciamo così. Ne abbiamo scritti 5. Il primo è uscito alla fine del 2005, il secondo è uscito nei giorni in cui è stato pubblicato il libro. Questi racconti non erano anticipazioni del libro, non erano parti del romanzo che poi sarebbero state collocate dentro, tra le due copertine. Erano altre operazioni, erano delle storie che mentre scrivevamo chiedevano a gran voce di essere raccontate, ma che non potevano essere inserite dentro il romanzo perché rappresentavano delle digressioni, delle deviazioni, delle divagazioni, e però chiedevano con insistenza di essere raccontati. Noi avevamo usato l'immagine che praticamente mentre parlavamo dei semi cadevano sul legno del tavolo e lì praticamente dopo un po' germogliavano delle piantine. Quelle piantine lì noi potevamo tagliarle, per dire, vabbè, sono cose che ci fanno perdere tempo, invece abbiamo deciso di annaffiarle e di farle crescere e poi di proporle ai lettori appunto come racconti di avvicinamento. Li abbiamo anche chiamati prolegomeni, erano narrazioni che servivano a abituare per tempo i nostri lettori, diciamo il nocciolo duro dei nostri lettori, a quel tipo di immaginario che avrebbero trovato in Manituana, a quell'ambientazione settecentesca, a quello sfondo della rivoluzione americana e a quella tematica di scontro di civiltà o di meticciato, al contrario, tra appunto indiani e bianchi, e a quello sguardo obliquo, un po' diverso, sicuramente inaspettato, sugli eventi della guerra d'indipendenza americana. Quindi avevamo già annunciato in qualche modo che il libro sarebbe andato in qualche modo oltre se stesso, ed è quello che poi abbiamo fatto realizzando questo sito. Questo sito non è solamente un sito vetrina, non è un sito promozionale, ma è proprio la prosecuzione del libro con altri mezzi, come si diceva una volta, come diceva Clausewitz, che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Questo sito è la prosecuzione del libro con altri mezzi. Non è solamente pubblicità, ma è un collettore di contributi che arricchiscano l'universo anche emozionale, non solo tematico, del libro. Vale a dire, musicisti ci stanno mandando colonne sonore ipotetiche del romanzo, le incidono e poi ce le spediscono, oppure creano addirittura delle campagne intorno a questa operazione che stanno facendo, come ha fatto l'etichetta indipendente Casa Sonica, fondata dai Subsonica, che ha composto una vera e propria ipotetica colonna sonora del romanzo in 8 brani che sono scaricabili o ascoltabili in streaming dal loro sito, e per ognuno di questi brani hanno allegato una piccola spiegazione. Ognuna di queste canzoni è collegata a un capitolo del romanzo. Noi non abbiamo messo bocca né dito in questo, è un contributo che loro hanno voluto fare, e diversi altri stanno facendo questo tipo di operazione, altre band italiane come ad esempio i Modena City Ramblers, che hanno scritto una ballata dedicata a un personaggio, o il jazzista, il batterista jazz Francesco Cusa, che ha addirittura composto una mini suite in 3 parti dedicata al romanzo. Tutto lavoro volontario gratuito che poi ci viene donato e noi ne siamo molto felici. Quella dei musicisti è una delle tante possibili interazioni. In realtà poi ci sono interazioni di illustratori, appunto di disegnatori che ci mandano disegni dove vengono rappresentate delle scene del romanzo, ma soprattutto ci sono i lettori che ci mandano racconti collaterali, versioni alternative di capitoli, epiloghi aggiuntivi, cioè parti del romanzo, per cui uno può tranquillamente leggere solo il romanzo, ma se quando l'ha finito vuole altre cose, vuole continuare a esplorare quel mondo, lo può fare. Noi abbiamo diviso questo sito in due livelli. Appunto, il primo livello è questo, che è in nero su bianco, c'è la scheda del libro, il trailer che avete visto, le varie notizie, news, rassegna stampa, recensioni, calendario delle presentazioni, i racconti d'avvicinamento, che nel frattempo abbiamo ribattezzato racconti ammutinati, perché si sono ammutinati a noi e ci hanno obbligati a raccontarli. C'è questa sezione luoghi, che è particolare perché grazie a Google Earth si può esplorare via satellite tutto il paesaggio, tutte le zone, le città, e i luoghi di battaglia, i teatri di guerra del romanzo. E poi adesso qua non so se è installato Google Earth, non credo, ma in ogni caso è un software che uno scarica, e in corrispondenza di ciascuno dei posti si possono aprire delle finestrelle con delle parti di romanzo o delle spiegazioni. In più si possono anche sovrapporre alle visioni satellitari del romanzo delle mappe d'epoca, delle mappe coeve disegnate nel periodo in cui si muovono i nostri personaggi. Poi c'è una cronologia per ambientarsi anche su che cosa succede nel frattempo. Ad esempio, qua a un certo punto il calzolaio tedesco Johann Birkenstock produce il primo paio di sandali. Sai, è una notizia che può essere di qualche interesse per qualcuno. C'è l'audioteca, che dicevamo prima, che non sono solo contributi musicali ma anche contributi, ad esempio attori di teatro, lettori di audiolibri ci mandano delle loro letture di capitoli del romanzo. E poi ci sono delle sinergie, ad esempio i Petrol, una delle band che ha composto la colonna sonora, fanno da base agli attori della Compagnia Fantasma, una compagnia teatrale bolognese, che leggono un capitolo. E poi qui c'è un'altra cosa invece particolare, perché chi legge il romanzo si incuriosisce di queste sonorità della lingua Mohawk, della lingua irochese, però senza poterla sentire davvero, vede solo dei nomi e dei toponimi con una grafia molto strana, e poi ci sono delle descrizioni di com'è questa lingua Mohawk. Allora qui abbiamo messo, se uno volesse sentire com'è. Ohunda gare wadekwa. A goego oska gi under the wahwe nuni nungwa negura. Dana da yeti nu huarado non guessoa. No, Guego, questa è una poesia del ringraziamento mattutino che abbiamo preso dal sito del territorio Mohawk di Tiendinaga, che è una provincia canadese interamente autogestita dai Mohawk, e che in questo momento è anche teatro di un movimento di lotta molto molto importante. Adesso poi appena si apre questo sito, che viene portato avanti tra l'altro in molti casi da discendenti dei personaggi che noi abbiamo messo come personaggi del romanzo e che sono realmente esistiti. Comunque adesso per il momento non si apre, ma era per far capire. Questo era il livello 1. Esiste anche un livello 2 del sito, a cui si accede rispondendo una domanda. Perché abbiamo voluto fare questo? Non perché ce la vogliamo tirare da elitari o cose di questo tipo, ma semplicemente perché nel livello 2 si può discutere a fondo del libro, quindi anche del suo finale. Ma perché avete fatto morire il personaggio in questo modo piuttosto che nell'altro? C'è un'assemblea permanente tra noi e i lettori, molto ricca, molto fertile anche di spunti per i libri successivi. Però se uno ci entra che il libro non l'ha ancora letto oppure lo sta ancora leggendo, si rovina tutte le sorprese, si rovina la lettura. E allora abbiamo messo questa specie di alto là chi va là, che è una domanda a cui può rispondere solo chi è già molto avanti e quasi alla fine nella lettura del libro, oppure lo ha già finito, che è: qual è il primo degli spettri che compaiono a Philippe Lacroix dopo la battaglia di Oriscany? Può rispondere soltanto uno. La battaglia di Oriscany si svolge a tre quarti di libro più o meno, e quindi c'è la garanzia che chi entra ha già letto il romanzo. Dentro il livello 2 ci sono tantissime altre cose. Appunto, c'è una sezione che si chiama diramazioni, dove noi ospitiamo i contributi scritti dai lettori, aggiunte e integrazioni narrative al mondo del romanzo, che però è consigliabile leggere chiaramente dopo che uno ha letto il romanzo, altrimenti sono virtualmente incomprensibili, e quindi non li abbiamo messi nel livello 1 ma li abbiamo messi nel livello 2. Poi c'è la sezione conversazioni, che è questa specie di assemblea tra noi e i lettori, con tantissimi thread, come si suol dire, tantissime discussioni aperte su vari aspetti del romanzo, con una discussione anche molto frizzante, di cui siamo molto soddisfatti anche per il livello qualitativo. E poi c'è una sezione che abbiamo chiamato officina, che praticamente è il dietro le quinte di Manituana. vale a dire ci sono i capitoli che noi abbiamo tagliato dal romanzo nel passaggio dalla terz'ultima alla penultima stesura, che erano capitoli che ci piacevano molto, ma che nell'economia, nell'equilibrio interno del romanzo, in qualche modo non ci stavano, cioè creavano delle discrepanze, degli squilibri, facevano uscire di carreggiata la narrazione, oppure semplicemente erano superflui, erano belli, erano degli esercizi di stile dentro quel contesto, ma che si potevano sacrificare. Un detto molto diffuso tra gli scrittori, di cui è un grande sostenitore di questo detto Stephen King, è: il cestino è il tuo migliore amico. E devi anche essere disposto a sacrificare i figli migliori, quelli che al momento ti sembrano i migliori. È il contrario della rupe spartana, insomma, dove buttavano giù quelli gracili, invece noi spesso dei capitoli che non sono per niente gracili li abbiamo buttati giù dalla rupe, però li abbiamo ripescati e li abbiamo messi in questa diciamo così, sezione che si chiama officina. Oltre ai capitoli scartati, un'altra operazione che abbiamo fatto, siccome noi abbiamo registrato proprio per scopi di lavoro e di consultazione tutte le riunioni che abbiamo fatto per scrivere Manituana, le abbiamo riascoltate e alcuni momenti chiave, momenti cruciali nella discussione in cui si decideva del destino del tal personaggio, oppure si decideva come sarebbe stato l'epilogo o come creare un particolare effetto nella scrittura, li abbiamo selezionati e messi dentro la sezione officina, sono ascoltabili come MP3 in streaming. Ultima cosa, in quella sezione c'è anche una rassegna di scambi di email che ci sono stati tra di noi, scambi anche con scazzi, c'è anche uno scazzo in particolare, durante quello scazzo io poi mi sono sbagliato, invece che dire Lemmon Matau, la strana coppia, ho detto Lennon Matau, e quindi da lì è partito tutto un filone stranissimo, con anche la proposta di un racconto su un incontro tra John Lennon e Walter Matau e robe così. Questa sezione lì, officina, l'abbiamo messa per rispondere a una domanda che ci viene fatta continuamente da almeno 10 anni, che è: come si fa a scrivere in gruppo? Allora noi lo spieghiamo in questa sezione. Chi ha la curiosità e la pazienza di andare a sentire vedrà come lavoriamo. Vedrà che non c'è un metodo applicabile sempre, ma che si cerca... continuamente, si cercano continuamente delle soluzioni innovative a problemi che si presentano spesso per la prima volta, perché ogni romanzo nostro è completamente diverso dai romanzi precedenti. Quindi abbiamo messo questa cosa. C'è una sezione luoghi anche nel secondo livello. Io ci entrerei, però se digito la password dopo la vedete. E quindi quanti di voi resistono alla tentazione poi di entrare nel livello 2 senza aver letto il romanzo? Io non lo so, non posso garantire, e quindi dopo vi rovinate il romanzo, non lo volete più comprare, non lo volete più leggere, quindi noi ci rimettiamo, e quindi è meglio di no. Quindi vi dovrete fidare della mia descrizione del livello 2 e vedere solo questa facciata. C'è una sezione luoghi, che è anche quella basata su Google Earth, però molto più ricca di quella del livello 1. C'è una sezione di link e bibliografia con praticamente tutte le fonti che noi abbiamo usato. Praticamente diamo la cassetta degli attrezzi del romanzo. È un'operazione di democratizzazione, diciamo così, dell'accesso ai segreti dello scrittore. È una cosa che diceva Majakovskij, diceva: un poeta, dicevo, uno scrittore non dovrebbe mai portare i propri segreti nella tomba, anzi dovrebbe continuamente spiegare, diceva pedagogicamente in senso buono, cioè non nel senso pedagogico noioso, ma diceva proprio del voler socializzare un sapere, dovrebbe spiegare, cioè, come scrive, cioè tutti i poeti dovrebbero farlo. Infatti Majakovskij andava nelle fabbriche della Russia, appunto della giovane rivoluzione russa, andava nelle fabbriche, faceva gli assemblei con gli operai e spiegava agli operai come scriveva le sue poesie, come gli veniva l'idea, come limava i versi. Lo faceva in continuazione nella raccolta delle sue opere complete. Ci sono moltissimi scritti di carattere, diciamo così, tecnico, perché lo vedeva proprio come la missione politica dello scrittore, e anche noi ci crediamo, e quindi non siamo sussiegosi rispetto alle nostre tecniche di scrittura, a come siamo arrivati a determinate conclusioni sul nostro lavoro. No, le socializziamo, lo abbiamo sempre fatto, e qui addirittura a un livello quasi maniacale, voglio dire, uno può addirittura ascoltarsi le nostre riunioni. Niente di ciglioso, niente di particolarmente noioso, anzi una delle prime frasi della primissima riunione è: ho scorreggiato, aprite una finestra. Perché insomma ci vuole un certo coraggio per demolire l'aura dell'autore in questa maniera, diciamo. Ecco, noi lo facciamo. Ora, perché vi ho spiegato che Manituana non è solo un romanzo, ma è anche altro, dovrei tornare a bomba sul romanzo e dire due o tre cose sul romanzo. Però io direi che questo lo può fare Federico, e dopodiché magari integro ancora, insomma andiamo avanti così, chi ha delle cose da dire, delle domande da fare, cioè cominciamo la discussione a briglia sciolta, perché poi noi non è che facciamo delle robe verticali, per noi sono dei momenti di confronto, di verifica, proprio di vera e propria assemblea con i lettori o potenziali tali, se ancora non lo sono, e quindi sì, andiamo avanti spigliati, ecco. Grazie. No, assolutamente. Dico anch'io due cose proprio nel merito del romanzo, dopodiché sarebbe molto più piacevole per tutti se ci fosse una discussione, ecco, e non una relazione che diventa sempre un po' noiosa. Potremmo dire che tutto è cominciato un giorno del 2003, quando gli Stati Uniti d'America hanno invaso l'Iraq. Quando è stata proclamata, anzi era già stata proclamata da un po' di tempo, ma comunque era calda, la proclamazione della guerra permanente, della guerra totale, potremmo dire, e quando in un bel po' di persone in giro per il mondo abbiamo cominciato a chiederci cosa stesse succedendo, insomma, quale sarebbe stato il nostro immediato futuro, il nostro prossimo futuro. All'epoca noi scrivemmo, ricordo un ultimo, perché poi ci chiudemmo sabbatico, in un lungo periodo sabbatico per scrivere Manituana, ma un ultimo contributo, diciamo, pubblico al dibattito politico, inteso in senso più, insomma, più stretto, che si intitolava Bush perderà la guerra. Dopodiché appunto ci iniziamo la nostra riflessione sulle origini della merda, scusate il termine, che stava, diciamo, l'ondata di merda che stava per travolgerci, che ci stava travolgendo. È una pratica che noi, diciamo, usiamo spesso, quella di andare a cercare un oscuro punto d'origine, appunto un momento di biforcazione della storia. La storia con la S maiuscola, che poi alla fine è la sommatoria di tante piccole storie con la S minuscola, e che molto spesso, come tutti sanno, è la storia raccontata dai vincitori. Quindi sempre una visione parziale, sempre una visione particolare. L'avevamo fatto con Q al nostro esordio, andando un po' alle origini della storia moderna europea, XVI secolo, eccetera. L'avevamo cercato di farlo con 54, nel periodo della Guerra Fredda, appunto, degli anni 50. Manituana è l'inizio di una nostra riflessione narrativa sull'America. L'America non intesa solo in senso geografico, come Stati Uniti d'America, cioè l'America anche per quello che siamo noi, insomma, per l'America come estremo occidente, come estremizzazione di tutte le caratteristiche negative e positive dell'Occidente, forse del mondo bianco, diciamo, della cultura bianca. E quindi in un certo senso siamo partiti dalla banconota da un dollaro, cioè dal primissimo predecessore di George W. Bush. In fondo quello che tutti assolutamente sanno è chi era George Washington, il primo presidente, nonché il capo militare, leader rivoluzionario, che ha guidato appunto la vittoriosa insurrezione delle colonie americane contro la madrepatria inglese. Non è che poi, diciamo, dai banchi di scuola ci portiamo dietro molto altro, se ci pensate bene, qui in Italia perlomeno. La rivoluzione americana, a parte la dicitura, sul quale già ci sarebbe da ridire, è trattata più o meno in un capitoletto, in qualche paragrafo dei manuali scolastici. e viene considerata un po' il prodromo, l'anticipazione della Rivoluzione francese, che invece ha un bel capitolone con un sacco di riflessioni, apparati critici, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo partiti da lì. Abbiamo deciso di provare ad andare a scavare al punto d'origine. E francamente non avremmo mai immaginato di imbatterci in quello che abbiamo scoperto. Partiamo dal presupposto che noi non siamo degli storici, non siamo assolutamente degli specialisti, quindi le nostre conoscenze di partenza erano davvero poco più di quelle che ho appena detto, quelle medie, condivise più o meno da tutti. Del resto, se poi conoscessimo già un periodo storico, probabilmente non ci verrebbe neanche voglia di scriverci dei romanzi sopra, di ambientarci dei romanzi. La ricerca è una parte fondamentale, è scoperta. E in questo caso, come dicevo, la scoperta è stata davvero spiazzante. Innanzitutto abbiamo scoperto che un ruolo importante in quel momento storico l'hanno svolta gli indiani. E non era proprio, non fa parte del nostro immaginario associare gli indiani alla Rivoluzione americana. Noi gli indiani ce li immaginiamo sotto i tipi che cacciano il bisonte nelle grandi praterie dell'Ovest. Li associamo all'Ottocento, alla conquista dell'West, allo sterminio da parte appunto della civiltà bianca che avanza e che raggiunge alla fine la costa occidentale degli Stati Uniti. Ci sono decine e decine di film, quelli in cui gli indiani sono ancora cattivi, che parlano con i verbi all'infinito, quelli di John Ford più o meno, insomma degli anni 30, 40, 50, e quelli invece politically correct degli anni 60 e 70, in cui gli indiani vengono più o meno insomma ritagliati sulle figure dei vietnamiti, ecco, dei buoni Vietcong che resistono. In realtà, insomma, chiaramente si tratta di due stereotipi. Uno quello del selvaggio brutto, sporco e cattivo, l'altro quello del buon selvaggio puro, traviato e sterminato dalla civiltà corruttrice. Ora, gli indiani che abbiamo incontrato noi scavando in quel periodo storico, cioè negli anni 60-70 del Settecento, del XVIII secolo, non avevano davvero niente a che fare con questi stereotipi e con questo immaginario. Innanzitutto non andavano a cavallo. E pensare l'indiano senza cavallo è già una gara dura rispetto all'immagine che abbiamo. Non usavano l'arco e le frecce, e anche questo comincia ad aggravare la situazione. Usavano rigorosamente il fucile, e anzi erano gelosissimi del proprio fucile. Non vivevano sotto le tende, durissimo anche questo colpo, vivevano in case di legno, addirittura in muratura e con i vetri alle finestre. Ovviamente non parlo degli indiani nomadi delle praterie, appunto, che entreranno nella storia dei bianchi soltanto nel secolo successivo, ma degli indiani che vivevano a ridosso delle colonie britanniche, quindi nella regione orientale, sotto i grandi laghi, che poi sono dei veri e propri mari interni, messi tutti assieme, sono grandi quasi quanto il Mediterraneo. E questi indiani, appunto, da almeno un paio di secoli convivevano, erano proprio a ridosso della cultura bianca, delle colonie bianche, e avevano ovviamente costruito una rete di scambi, di influenze reciproche. Ad esempio erano quasi tutti cristiani. Molti erano cristiani, parlavano diverse lingue, l'inglese, il francese, oltre che le lingue native. Si vestivano anche in modo non consono all'immagine che abbiamo dell'indiano, del guerriero indiano. Indossavano indumenti di lana, molto più caldi ed eleganti, delle pellicce. Le pellicce le vendevano ai bianchi, che poi le commerciavano in Europa. E spesso facevano da interpreti, quindi potevano anche leggere i testi occidentali. Alcuni di loro erano quasi degli intellettuali dell'epoca. traducevano appunto la Bibbia, traducevano opere letterarie. Ma soprattutto, da molti secoli si erano dati una costituzione. Quindi non erano affatto buoni selvaggi, erano dal punto di vista europeo civilizzati. Una costituzione, la legge della grande pace, che teneva unite le sei nazioni irochesi, appunto. Le datazioni più recenti degli antropologi la collocano intorno al 1140-42, quindi in teoria sarebbe più antica della Magna Carta, che viene considerata la prima costituzione scritta, pseudo-costituzione scritta, appunto sempre da un punto di vista europeo. Oggi gli eredi delle nazioni irochesi infatti si considerano la più antica democrazia del mondo, perché in effetti questa legge della grande pace costituiva un'unità, diciamo, protostatale, una confederazione appunto di nazioni, di sei nazioni, cinque prima, poi diverranno sei, con una capitale, un territorio circoscritto e dei rapporti, diciamo, istituzionali, un concilio che veniva convocato periodicamente, in cui tutti potevano partecipare, in cui non vigeva in realtà il principio maggioritario, ma quello dell'unanimità e della non vincolo per i singoli delle decisioni collettive, cioè ognuno in realtà poteva anche non accettare le decisioni collettive e fare insomma prendere scelte individuali, ecco, particolari. Non c'era un vincolo di maggioranza di nessun tipo. Potete immaginare cosa dovessero essere i concili delle sei nazioni. Duravano mesi, delle volte settimane sicuramente, anche perché poi c'era tutto un corollario di feste, scambi, regali, relazioni personali, familiari, eccetera eccetera. Davvero, insomma, come delle fiere prolungate all'infinito, e poi si arrivava chiaramente anche al momento delle discussioni politiche. Insomma, questa entità confederale pare che abbia addirittura ispirato l'idea di unione delle colonie che da lì a poco si sarebbero rese indipendenti. Insomma, Benjamin Franklin, un altro personaggio che molti avranno sicuramente sentito nominare, uno dei padri, insomma, degli Stati Uniti, se non altro dei padri putativi, insomma, degli Stati Uniti, proprio parlando con questi che lui reputava selvaggi, disse, lo scrive nei suoi diari, insomma, se questi selvaggi riescono a rimanere uniti, e sono sette nazioni, sette tribù, perché noi 13 colonie bianche non possiamo riuscire a fare questo e anche di meglio? Questo per dire che, insomma, appunto, si è sempre abituati a cercare le origini di quello che è successo in America, della nascita americana, da questa parte dell'Atlantico, e invece forse bisognerebbe guardare dall'altra parte dell'Atlantico, a quello che c'era prima di là, perché appunto in realtà gli scambi tra i nativi e i coloni erano davvero intensissimi, economici, culturali, eccetera. E in particolare noi ci siamo imbattuti in una interzona, una specie di interzona etnica, oltre che culturale. Nella valle del fiume Mohawk, all'interno della colonia di New York, dell'allora colonia di New York, oggi stato di New York, si era stanziato da una trentina d'anni, più o meno dagli anni 30 del XVIII secolo, un personaggio affascinante, un irlandese, un emigrato irlandese che aveva trovato fortuna proprio lì e aveva fatto la sua fortuna instaurando rapporti con le popolazioni locali. Era un irlandese e, come spesso accade agli irlandesi, aveva disseminato figli per tutta la valle del fiume Mohawk con molte donne indiane. Ebbe anche una moglie bianca, per la verità, per in qualche modo salvare le apparenze per l'epoca. Qui forse vedete il suo ritratto, Sir William Johnson, che era quindi baronetto e ebbe incarichi dalla corona, era commissario per gli affari indiani delle colonie del Nord America, ed ebbe appunto però molti figli meticci. E se per la tradizione europea la discendenza è patrilineare, quindi i suoi figli portavano il cognome Johnson come lui, nella cultura irochese la discendenza è matrilineare, e quindi i suoi figli erano anche a tutti gli effetti Mohawk e membri dei clan d'appartenenza, dei clan irochesi. Il suo, diciamo, il suo primogenito dalla donna che è anche uno dei personaggi principali del romanzo, Molly Brent, il suo primogenito era quindi, come dire, erede di due tradizioni. Studiava a Filadelfia, studiava il francese e l'inglese, però scriveva anche in Mohawk, si chiamava Peter Johnson, e quindi, come dire, sarebbe stato in qualche modo il suo discendente. Ora, questa realtà meticcia in cui Johnson poi portò con sé coloni dall'Irlanda, ma anche transfughi dalla Scozia, che era stata recentemente risottomessa pochi decenni prima dalla corona inglese, e che si mescolarono appunto con le popolazioni locali, popolazioni stanziali, come dicevo, ecco, questa comunità meticcia è la protagonista del nostro romanzo. Non c'è un protagonista unico, né un antagonista unico, c'è una comunità che si muove e che viene investita dalla grande trasformazione che è stata la rivoluzione americana. Rivoluzione, ho detto all'inizio, sulla quale forse un po' di virgolette andrebbero messe. Adesso non voglio certamente aprire una disquisizione teorico-politica sul concetto di rivoluzione, che però in un certo senso per noi che abbiamo in qualche modo attraversato l'esperienza zapatista negli anni passati ha un significato molto diverso da quella novecentesca. Ma sicuramente quando andiamo a questa prima rivoluzione, a questa rivoluzione americana, ecco, molti concetti, molte idee anche stereotipate che noi abbiamo e che ritroviamo sui manuali di storia scricchiolano quando andiamo a vedere nel particolare, e ci rendiamo conto che i moventi che hanno spinto e che spinsero appunto i coloni americani all'indipendenza dalla madrepatria erano un po' anomali per quello che noi riterremmo essere rivoluzionario. Innanzitutto la possibilità di rubare la terra agli indiani, spazzarli via, appropriarsi del territorio delle sei nazioni e andare anche oltre. In questo senso la corona d'Inghilterra era invece la garante di una linea, di un confine oltre il quale i coloni non avrebbero potuto spostarsi. E questo fece sì che gli indiani delle sei nazioni, o almeno alcuni di loro, si videro naturalmente spinti a appoggiare i lealisti, appoggiare la corona inglese in quel conflitto, e non certo la causa rivoluzionaria. Eccola qua la linea rossa, la Proclamation Line sancita da Re Giorgio III d'Inghilterra, appunto. I coloni volevano abolire questa linea, avevano fame di terra e quindi gli indiani erano in mezzo, sostanzialmente. Queste sono le colonie, la zona grigia, vedete? Volevano andare oltre. Questo è stato un movente, diciamo, uno dei più importanti. Un altro era quello di poter commerciare liberamente, di poter commerciare finalmente liberi da tasse, balzelli e tassazioni varie, appunto. Buona parte del commercio delle colonie si sviluppava grazie al contrabbando, quindi insomma al traffici non tassati. E il fatto che la corona d'Inghilterra volesse invece ridurre a monopolio di Stato i traffici commerciali fu un altro dei fattori principali dell'insurrezione. Infine c'era un terzo motivo, oltre a voler rubare la terra agli indiani e non pagare le tasse, mantenere la schiavitù. Questo sembra paradossale se guardiamo solo la storia delle colonie settentrionali del New England, quelle più a nord, per intenderci, la zona di Boston e New York, perché lì in effetti la schiavitù venne abolita durante gli anni dell'insurrezione, della rivoluzione. Ma non fu affatto così per le colonie del sud. C'è voluta la guerra di secessione nel secolo successivo e un'altra milionata di morti perché si abolisse la schiavitù negli Stati Uniti d'America. E questo perché le colonie del sud, la Virginia, la Georgia, le due Caroline, la Florida, eccetera, si reggevano economicamente sul lavoro schiavile. In Inghilterra la schiavitù stava per essere abolita. Anzi, la sentenza Somerset, una famosissima sentenza del 1772, l'aveva già abolita nel territorio di Londra. Se uno schiavo nero raggiungeva il comune di Londra, era libero. Sapete che nel sistema inglese vige la common law, quindi le sentenze fanno giurisprudenza. E la notizia di questa sentenza, non si sa come, ma era arrivata fino alle piantagioni della Virginia e della Georgia. Gli schiavi cominciavano a scappare per cercare alla disperata di raggiungere l'Inghilterra, pensate. Effettivamente quest'anno si è festeggiata l'abolizione formale, il duecentenario dell'abolizione formale della schiavitù. Lo ha fatto la regina Elisabetta, tra l'altro c'è stato un signore che ha anche cercato di schiaffeggiarla o darle un calcio in culo, credo, un signore di colore, a Londra durante le celebrazioni, e l'hanno fermato in tempo. Formalmente, effettivamente poi la schiavitù è stata abolita negli anni 20 dell'Ottocento, però diciamo è considerato il 1807 la data, quindi non tanti anni dopo, ecco il periodo che prendiamo in considerazione. Morale della favola: una delle paure che avevano i piantatori, i grandi latifondisti delle colonie americane, era proprio quella che si abolisse la schiavitù e che quindi i loro campi, le loro piantagioni di cotone e di tabacco non venissero più coltivate, non potessero più essere coltivate. E questo spiega anche perché molti schiavi fuggirono dalle piantagioni per andarsi a ruolare nell'esercito britannico. Re Giorgio III aveva tra l'altro garantito la libertà a tutti gli schiavi che si fossero arruolati nelle sue truppe. E quindi, insomma, vi renderete conto da soli che ci troviamo di fronte a una rivoluzione piuttosto anomala, in cui quelle che oggi chiameremo minoranze si trovano tutte dall'altra parte. Gli indiani, gli schiavi e anche le minoranze religiose, i quaccheri che non si schierarono, ovviamente perché erano neutralisti e pacifisti, rigorosamente pacifisti, forse gli unici che non hanno mai fottuto la terra agli indiani con l'inganno, ma che la compravano regolarmente a prezzo di mercato in Pennsylvania, e che vennero con un colpo di mano guidato proprio da Benjamin Franklin spazzati via, cancellati dalla storia americana, non spazzati via fisicamente si intende, ma cancellati dalla storia americana in quanto non schierati, ergo potenziali nemici, quindi privati dei diritti civili. E in questo modo anche la Pennsylvania poté aderire alla dichiarazione di indipendenza insieme alle altre colonie. Quindi insomma le minoranze stavano davvero tutte dall'altra parte, e questo, come dire, fa saltare un po' dei nostri parametri, io penso, la nostra idea appunto otto-novecentesca di rivoluzione, considerando che questa è prima, che questa sarebbe, come dire, l'anticipazione di tutto quello che è avvenuto dopo. La nostra storia si svolge durante questi anni, si svolge in uno scenario piuttosto vasto, perché appunto dalla valle del fiume Mohawk i nostri personaggi, bianchi e indiani e meticci, compiranno un lungo viaggio. Lo fecero davvero, insomma, questa è storia. Noi abbiamo romanzato, ma abbiamo romanzato sulle fonti. I personaggi, diciamo, inventati di fiction sono due più o meno, gli altri sono tutti romanzati sulla base di biografie, insomma, biografie storiche e cronache. Davvero hanno, diciamo, attraversato un mondo in totale trasformazione, insomma, hanno attraversato un oceano addirittura, sono arrivati addirittura al cospetto di Re Giorgio, pur venendo dalle colonie più sconfondate, insomma, e sono tornati indietro. Hanno compiuto una specie di anabasi e catabasi, insomma, alla Senofonte, per usare, insomma, una citazione aulica, classica. E, come dire, questa storia che in origine doveva essere soltanto una delle storie di una narrazione molto più vasta, ci ha invece catturati al punto che abbiamo deciso di farne un romanzo, un romanzo che dovrebbe essere l'inizio, il primo insomma di un trittico, di tre romanzi in cui vorremmo raccontare questa grande epopea, questa specie di apocalisse insomma, da vari punti di vista. Questo primo romanzo la racconta dal punto di vista degli indiani e di questi indiani particolari. Concludo dicendo che i personaggi in cui ci siamo imbattuti, appunto, molto originali e che tradiscono tutti gli stereotipi, sono sì personaggi storici, ma sono anche personaggi che non è stato semplice mettere in narrativa, nel senso che se le loro vicende si prestavano benissimo al romanzo di avventura, anche di cappa e spada, se volete, insomma, un po' all'ultimo dei Moicani di Fenimore Cooper, quindi battaglie nelle foreste, corse in canoa, eccetera, eccetera. Però cercare di capirli, cercare di renderli narrativamente sulla pagina non è stato affatto facile, e forse se qualcuno si andrà a ascoltare gli MP3 delle nostre riunioni o i nostri scambi mail sul livello 2 del sito se ne renderà conto. Cioè gli scazzi a cui faceva riferimento Roberto prima sono motivati, ecco. Abbiamo spaccato il cappello in quattro alle volte per cercare di dare una faccia e un'anima a queste persone. Perché dico una faccia? Perché in molti casi non siamo nemmeno certi di che faccia avessero, nonostante siano stati ritratti. Un esempio classico è uno dei protagonisti, Joseph Brand Tayenda Nega, un capo guerriero Mohawk, con un nome di battesimo cristiano e un nome tribale, come tutti questi particolari indiani, che è stato ritratto varie volte nell'arco della sua vita. In ogni ritratto ha una faccia diversa, a seconda del luogo e della circostanza storica in cui l'hanno ripreso. Quando gli fanno il ritratto in Inghilterra, quando è ospite ricevuto dall'aristocrazia inglese, dal re Giorgio, eccetera, voi guardatelo, è un bianco a tutti gli effetti, travestito da indiano. Ce n'è una ancora più significativa. Eccolo qua. Guardatelo. Questo è un bianco a tutti gli effetti, travestito da indiano. Vedete il nasino alla francese, la carnagione chiara, l'occhio tondo. Quando viene invece ritratto successivamente in America, ha una, diciamo, ecco, naso all'ingiù, occhi tagliati, ha le rose d'Inghilterra tra i capelli perché è un alleato della corona britannica, stessi vestiti, stesso, diciamo, travestimento da indiano, che però qui non cozza con. Quindi anche solo immaginarseli questi è stato difficile. E poi dargli un'anima, sempre per rimanere a questo personaggio, potete immaginare che costui, ecco, qui addirittura sembra Craxi da vecchio, qui era anziano Joseph, piuttosto anziano e un po' su di peso, e anche dare un'anima non è stato facile. Immaginatevi costui, che uno che appunto un indiano che ha combattuto dalla parte del re, come può essere considerato negli Stati Uniti per la storiografia degli Stati Uniti, perlomeno per la vulgata, ecco, è considerato Monster Brent, un mostro sanguinario, uno sgozzatore di donne e bambini. In Canada è considerato un padre della patria, più o meno. Lui e sua sorella Molly sono considerati tra i padri della patria, addirittura sua sorella hanno dedicato un francobollo in Canada. Ecco, quindi si è trattato anche di barcamenarsi, insomma, tra immagini storiche, ecco il francobollo. Il volto è assolutamente ricostruito, cioè assolutamente non ricostruito, anzi assolutamente ipotetico. Si è trattato di barcamenarsi davvero tra versioni molto molto divergenti, e quindi noi abbiamo qui davvero lavorato puramente da romanzieri, ecco. Questa è la grossa nostra fortuna, appunto, di non essere né degli storici né degli specialisti, insomma, ma sostanzialmente dei cantastorie. E quindi ci siamo poi, abbiamo scelto e abbiamo adattato i personaggi e i caratteri alla storia che volevamo raccontare secondo i nostri criteri di plausibilità. Mi fermo qui, se no la facciamo troppo lunga, e sperando che ci sia qualche domanda invece, se qualcuno ha letto il romanzo o se anche non lo ha letto. E anche ha delle curiosità. Sì, sì, rispondiamo più o meno a qualunque cosa che ci competa, ovviamente. I limiti delle, chiaro. Si sente? Ma insomma. Ah, ok. Ciao. Senti, la mia prima domanda era quando è nata l'idea del progetto, nel senso il progetto questo del sito, dell'avere la possibilità insomma di un'interazione con i lettori, è nato fin da subito oppure è venuto col tempo? Sì, dunque noi venivamo da un progetto che era iper collaborativo, addirittura spalancato, non solo aperto, che era quello di Luther Blissett, cioè in poche parole Luther Blissett era uno pseudonimo che chiunque poteva utilizzare e quindi c'erano tantissime persone che si coordinavano, però in maniera piuttosto lasca, a dire il vero, non molto leninista, tra loro per creare la reputazione di questo personaggio immaginario che si chiamava Luther Blissett, che prendeva in prestito il nome da un calciatore giamaicano, anglo-giamaicano, che aveva giocato nel Milan nei primi anni Ottanta. Era una specie di Robin Hood dell'epoca dell'informazione, una specie di bandito popolare. E le azioni compiute da questo bandito popolare erano soprattutto beffe giocate ai media, false notizie spacciate ai giornali e poi rivendicate, molto spesso orchestrate in forma di performance complicatissime a cui ogni persona, e si parla di decine e decine di persone che ci lavoravano, portava un piccolo mattoncino. E quindi venivamo da quel progetto lì fin da subito. Quindi anche il progetto successivo è stato caratterizzato da un'apertura e da un'idea di un dialogo continuo con i lettori, spesso coinvolgendoli a diventare insomma anche più attivi, a diventare a non rimanere solo contemplatori passivi del nostro lavoro, ma a interagire, a darci spunti, suggerimenti, addirittura a modificare in prima persona quello che noi facevamo. Abbiamo fatto molti progetti, ad esempio di scrittura comunitaria, così li abbiamo chiamati, con Wuming. Ad ogni modo, fin dall'inizio, dai primi mesi del 2000, noi abbiamo avuto questa newsletter che si chiama JAP, che praticamente è il nostro organo di informazione, virgolette, ufficiale, con cui comunichiamo con il mondo e poi pubblichiamo anche le risposte che riceviamo. Lunghissime discussioni sul nostro lavoro hanno avuto luogo dentro questa newsletter, che chiaramente non è un blog, non è un forum, cioè noi riceviamo via email e poi chiaramente facciamo delle scelte redazionali e decidiamo cosa pubblicare, però questo è stato, diciamo, un po' lo strumento che ha creato intorno a noi una comunità, un network di persone. Anche piuttosto vasto, si parla sempre di nicchie, però esistono nicchie più o meno consistenti. La nicchia, diciamo così, di quelli che apprezzano e seguono il nostro lavoro e poi spesso si fanno vivi anche per dialogare con noi, è una nicchia piuttosto consistente. Già ha quasi 10.000 iscritti e i nostri libri vendono comunque bene. Abbiamo la possibilità di rivolgersi a molte persone e cerchiamo di non sprecare l'occasione. Per quanto riguarda Manituana, volevamo fare un salto di qualità. Noi avevamo già in realtà dedicato dei piccoli mini siti a ciascun nostro libro. Non so, questo ad esempio è New Thing, il mio romanzo solista, e questo è un sito dentro il sito realizzato nel 2004, è ancora attivo, ancora con contributi che arrivano e vengono pubblicati, che praticamente ha sviluppato un fortissimo dialogo con i lettori del libro. Questo è il forum, è pieno zeppo di discussioni, di persone che spedivano loro critiche, perplessità, consigli, spunti, suggerimenti, contumelie, invettive, qualunque tipo di cosa. Quindi avevamo già fatto questo tipo di lavoro e avevamo anche, per il nostro film Lavorare con lentezza, creato un sito che non, all'epoca, ma forse anche oggi, non aveva molti corrispettivi per quanto riguarda i siti di film. Di solito i siti dei film sono dei siti promozionali e basta, c'è il trailer, ci sono scritte due cazzate, qualche foto di scena, fine. E dopo due mesi appunto lo levano, poi scade il dominio e ciao. Questo invece sono più di 3 anni che è su e continua a vivere, continuiamo ad aggiornarlo, chiaramente una cadenza meno rigorosa di prima, quando il film era nelle sale e dopo, quando è uscito in DVD, questi sono i commenti che arrivavano dai lettori con le nostre risposte sotto, eccetera eccetera. Per Manituana volevamo fare un salto ulteriore, perché l'abbiamo concepito fin da subito come, dicevo prima, un sito sintesi, cioè tutte le lezioni che avevamo imparato da questa interazione con i lettori nel corso degli anni le volevamo in qualche modo applicare. Ci siamo rivolti ai nostri amici, gli stessi che ci avevano aiutato a fare il sito di Lavorare con Lentezza, si chiamano Chialab, sono di Bologna, sono tutte persone che abbiamo conosciuto durante la Pantera, ormai un tot di anni fa, all'occupazione dell'università, e che poi sono diventati grafici e web designer coi controcazzi e fanno dei siti secondo noi bellissimi. Ci siamo messi al lavoro insieme a loro, quindi noi cinque più loro due, sono soprattutto due quelli con cui noi abbiamo rapporti da anni, e abbiamo buttato fuori idee, questo quando stavamo ancora scrivendo il libro, cioè non a libro finito, già ci interrogavamo su come, insomma, fare qualcosa di significativo e appunto di cui non si fosse mai visto un corrispettivo, come dicevo prima. Poi abbiamo battuto cassa, nel senso siamo andati dall'Einaudi a dire: loro non vogliono tanto che si dica in giro, no. però insomma, è un segreto. Siamo all'estero. Sì, all'estero forse si può dire. No, diciamo che sì, insomma, per realizzare un sito così un po' di fondi ci vogliono. E quindi abbiamo fatto una serie di riunioni con il Gotha della casa editrice Einaudi, riunioni in cui gli spiegavamo la nostra idea di rete, la nostra idea di comunicazione, analizzando anche proprio il nostro sito Women Foundation. Tra l'altro è un'impresa questa, perché la casa editrice Einaudi è bella ingessata. Sulla rete effettivamente la casa editrice Einaudi è ancora abbastanza ingessata, effettivamente. Il sito dell'Einaudi, però non è solo un problema del sito dell'Einaudi, i siti delle case editrici in genere, non solo quelli italiani, i siti delle case editrici sono ancora molto poco funzionali, non è che forniscono ai lettori e agli acquirenti libri un'esperienza di più, cioè qualcosa di utile, un'integrazione, spesso sono solo la scheda del libro, la copertina e poco altro, e l'Einaudi da questo punto di vista non fa eccezione. Noi abbiamo fatto degli incontri, prima con i direttori di collana Stile Libero, che sono poi le nostre interfacce, quelli con cui noi abbiamo a che fare continuamente, e poi con tutto, diciamo, il gruppo dirigente della casa editrice, spiegando cosa avevamo in mente. A loro l'idea è piaciuta, e poi vabbè, con una certa lentezza, una certa brachicardia tipica dei grandi gruppi editoriali, si sono comunque attivati e mossi per finanziare questo progetto, così noi abbiamo potuto pagare quelli di Chialab, perché hanno fatto un lavorone, hanno realizzato il trailer sul nostro spunto, però l'hanno realizzato loro e hanno fatto un grosso, perché poi quello che si vede è la punta dell'iceberg, perché la vera innovazione che loro hanno creato dentro i loro siti è il gestore, cioè l'interfaccia con cui si può creare il sito, si aggiungono le pagine, qualcosa di veramente bello che hanno costruito nel corso degli anni, ed è quello che è dietro soprattutto il grosso lavoro, non tanto le pagine, anche se comunque questa grafica apparentemente semplice ha richiesto molto lavoro perché fosse equilibrata, perché funzionasse, eccetera. E l'abbiamo messo online prima che uscisse il libro, quindi all'inizio c'era solo il livello 1, chiaramente, poi abbiamo aspettato un mese dopo l'uscita del libro, in modo che già delle persone lo avessero letto, se lo fossero consigliate tra loro, ne avessero parlato, perché potessero entrare nel livello 2, e il livello 2 poi alla fine è quell'esperienza in più che diamo a chi ha già letto il libro. Però diciamo che era un po', anche se un'evoluzione, almeno noi crediamo lo sia, rispetto al nostro percorso prima, comunque è in perfetta continuità, nel senso che è uno dei primi momenti di sintesi di anni di lavoro e di interazione con i lettori. Sono pochi gli scrittori che hanno un livello di interazione simile al nostro, anche perché spesso uno scrittore poveretto è da solo, se dovesse rispondere a tutte le mail che riceve, eccetera eccetera, è un lavoro. Di solito cosa succede? Che lo scrittore delega questo aspetto ad altre persone e poi interviene ogni tanto, una tantum, ad esempio, non lo so, il sito di Massimo Carlotto è un sito molto ricco, molto pieno di materiali, ma sono due ragazzi che lo gestiscono, lo curano, eccetera eccetera, che Carlotto paga, ma sono però prima di tutto suoi lettori e ammiratori, persone che gli vogliono bene, eccetera, gli hanno messo su questo sito. Ogni tanto nel forum Carlotto interviene di persona, però non è che il lavoro del sito quotidiano lo faccia lui, perché appunto uno da solo, cioè, non è che può mettersi. Noi invece cioè, al sito ci lavoriamo noi direttamente. Wuming Foundation proprio lo facciamo noi, proprio ogni aspetto, dalla realizzazione delle immagini a caricare gli MP3 a qualunque cosa. Cioè, questo è proprio tutto fatto esclusivamente da noi ed è un lavoro quotidiano di diverse ore. Manituana l'abbiamo fatto e lavorare con lentezza li abbiamo fatti sempre assieme a Kialab, però poi la gestione quotidiana è nostra. Insomma, noi crediamo molto in questo lavoro qui. Non avrebbe senso per noi scrivere libri per poi non avere anche questo tipo di confronto. E un'altra cosa importante sono le serate come queste. Noi giriamo a parte il periodo sabbatico che abbiamo avuto perché eravamo veramente indaffarati a scrivere Manituana, quindi per quasi un biennio non abbiamo girato e l'abbiamo chiamato appunto il periodo sabbatico, quello lì. Però prima di allora e anche adesso dopo noi abbiamo fatto tantissime presentazioni che poi non sono solo presentazioni, diventano appunto dei momenti di verifica del nostro lavoro, la possibilità di incontrare i lettori de visu fisicamente. Prima del sabbatico abbiamo fatto oltre 250 incontri con i lettori e adesso dopo il sabbatico ne abbiamo già fatti 15, cioè è poco, ma 15-20, una cosa del genere, e ne abbiamo in programma fino alla fine dell'anno, alla fine ne avremo fatto una 60, quindi comunque anche questo è un investimento di tempo e di energie che facciamo, ma che però per noi è imprescindibile, è indispensabile. Cioè non capiremmo come viene recepito il nostro lavoro se non incontrassimo continuamente i nostri lettori. Non avrebbe senso scrivere libri senza fare anche questo per noi. Delle opere che mettete su Giap, una delle più interessanti che avevo letto era la prima volta che ho visto i fascisti, che era un romanzo in cui praticamente era scritto dagli stessi lettori di Giap, e quello mi era molto piaciuto. E la cosa mi fa pensare, nei prossimi, ho sentito che volete fare altri dei seguiti per Manituana, giusto? Quindi la mia domanda sarebbe, pensate anche di chiudere il circolo del feedback con i lettori e integrare del materiale scritto da loro nei prossimi libri? Dunque, per spiegare di che cosa si sta parlando, la prima volta che ho visto i fascisti è un'idea che avevamo lanciato qualche anno fa in occasione, insomma, di un 25 aprile. Era il sessantennale. Mandateci i vostri ricordi della prima volta che avete visto i fascisti fisicamente. Si partiva, insomma, chiaramente era rivolto, come dire, alla nostra generazione, comunque alle generazioni che non avevano avuto modo di vedere i fascisti, quelli proprio in camicia nera, per fare una mini indagine, insomma, sul rapporto tra la nostra generazione e quelli lì. E ne era uscito, insomma, una mappatura divertente, ecco, e anche molto interessante. Insomma, a seconda delle città da cui erano arrivati i contributi, saltavano fuori dei quadri molto molto diversi. Cioè, ad esempio, a Bologna, per intenderci, i fascisti sono dei fighetti che in una delle vie più chic del centro storico hanno un banchetto la domenica, il sabato pomeriggio, e raccolgono delle firme così, insomma, in maniera abbastanza innocua. Fighetti nel senso di figli di papà, ecco, che hanno case sui colli, eccetera. Mentre chi scriveva da Roma, ad esempio, da certi quartieri di Roma, ci raccontava cose molto molto più pittoresche, ecco, per usare un eufemismo. Anche esperienze pesanti, insomma. Diciamo che sì, lo possiamo definire un romanzo, ma più che altro, insomma, una piccola un'odissea a puntate, ecco, a più mani, a n mani. In realtà il progetto di Trittico lo scriviamo noi, cioè i tre romanzi li scriveremo noi di sicuro, però non a caso abbiamo innescato questo meccanismo extra romanzo, ovvero la discussione che si è sviluppata sul livello 2, su quello che abbiamo scritto, in cui si eviscerano i personaggi, su questa immagine anche un po' schifosa, però insomma li si vivisezziona veramente, ci ha fatto capire già adesso, insomma a pochi mesi dall'uscita, tutta una serie di robe che noi non sapevamo di avere scritto. Insomma, tu una roba la scrivi, c'hai un'idea, poi però cominci a discuterne, perché finito poi il romanzo siamo tutti lettori, quindi non è che cioè non è che io dico no, sono l'autore e quindi buona, comando io, sono io il dio di Manituana, no, cioè chiaramente è pubblica la cosa e quindi si discute, e noi ci siamo, insomma, ci siamo imbattuti in letture davvero, davvero interessanti di quello che avevamo scritto, e anche che ci hanno stupito, che ci hanno meravigliato, e anche abbiamo cominciato appunto anche noi a rielaborare certe cose, e quindi da questo punto di vista questo lavoro è fondamentale per i prossimi romanzi che scriveremo, perché, come dire, allarga il respiro di quello che hai fatto. Tu eri partito dicendo che hai A, B, C, invece no, c'è anche D e F. Questo vuol dire che noi ci siamo abbiamo appena cominciato a lavorare sul prossimo romanzo, che non è un sequel ma un sidequel, cioè si svolge parallelamente negli stessi anni ma in un'altra zona e da tutt'altra angolazione. Da questo punto di vista noi terremo molto conto delle discussioni che ci sono state e che continuano a esserci sul livello 2. Tanto per dire una cosa a cui teniamo particolarmente, il lavoro che abbiamo fatto sui personaggi femminili in Manituana è stato sicuramente più approfondito di tutti gli altri romanzi che abbiamo scritto, collettivi o solisti. Anzi, possiamo dire che essendo un collettivo di tutti uomini, insomma, probabilmente i personaggi femminili, la caratterizzazione dei personaggi femminili era sempre stata un po' un nostro punto debole tra i vari. Siccome questa cosa c'era spesso stata fatta notare, abbiamo cominciato a lavorarci proprio a partire da Manituana. In Manituana abbiamo cercato di dare uno spazio peculiare ai personaggi femminili, uno spazio importante, e con tutta una serie di riflessioni, anche un sacco di seghe, se volete, c'è un'infinità di rovelli prima di arrivare alla pagina scritta, però in definitiva sono stati utili. Questa discussione qui internos è proseguita, sta proseguendo sul livello 2, sui personaggi femminili, e noi stiamo tesaurizzando tutto, cioè tutta questa roba qua confluirà sui personaggi femminili dei prossimi romanzi. Abbiamo iniziato un percorso sui personaggi femminili che però probabilmente solo all'inizio, senza questo livello di discussione, senza questa apertura, questa possibilità, è dura, cioè, perché alla fine sei sempre te. È vero che noi siamo in cinque ed è una grossa fortuna in questo senso rispetto al singolo che magari se lo deve andare a cercare quello con cui discutere, però alla fine siamo sempre noi, e insomma invecchiamo, non è che poi si migliora più di tanto, siamo noi, ci conosciamo da tanto tempo e anzi cominciamo anche un po' a avere certe insofferenze, certe idiosincrasie eccetera eccetera, quindi si lavora insieme, ma davvero lo sbocco dei contributi esterni è fondamentale, e anche di andare in giro, come diceva Roberto, sia per incontrare gente che ha letto i libri o che li vuole leggere o che insomma ha voglia di discutere con noi per vedere come ti vedono gli altri, sia anche per rendersi conto di quali sono gli altri posti in cui i tuoi romanzi circolano, insomma, cui in certe idee circolano. Insomma, se io dovessi immaginare di trascorrere tutto l'anno a Bologna, davvero comincia, cioè per me è anche un toccasana riuscire ad andare in giro a incontrare, insomma, gente in carne e ossa, ecco, non solo chiaramente via email e sul sito. Com'è? No, non so bene come spiegare la mia domanda, non so neanche se è una domanda. Però, nel senso, io ho letto Q, per esempio, che mi è piaciuto tantissimo, Ho letto anche Asce di guerra, che idem, Manituana appunto non l'ho ancora letto, ma boh, mi sembra bellissimo, interessantissimo appunto questo fatto che fa parte del vostro lavoro, del vostro percorso, di rendere in memoria e viva anche appunto certe figure a côté della storia ufficiale, eccetera. E quindi, nel senso, io mi sono immaginata, impersonificata in un sacco di persone in questi romanzi, eccetera. E la storia anche in Manituana di mettere tipo Google Art, che va ora a ripercorrere tutti i siti del romanzo, secondo me è geniale, perché io trovo, io adoro la storia, il passato, e vorrei riuscire completamente a immaginarmi, a capire quello che è successo e come erano le storie, le vicende, la gente, eccetera, prima di me. Quindi, nel senso, questa qua secondo me è, aiuta un casino, è una genialata, nel senso di andare a vedere proprio po'. E boh, non lo so, a me mi affascina un casino, perché secondo me è difficilissimo, anche adesso se mi guardo attorno, voglio dire, 100 anni fa o di più, com'era qua, come viveva la gente, eccetera. Questo qua è un lavoro, secondo me, importantissimo, che è troppo spesso dimenticato oggi. E nel volantino che abbiamo fatto per questa serata c'è una vostra descrizione, o l'incipit di Manituana, che dice la storia dalla parte sbagliata della storia, quando tutto era ancora possibile. Oggi che tutto è cambiato, eccetera, nel senso, che si fa? Cosa, nel senso, il vostro lavoro anche nell'andare a ripescare, a cercare, eccetera. Anche oggi dobbiamo trovare la forza per far sì che tutto sia possibile, come questa gente, nel senso, ha cambiato i propri destini o ha vissuto certe situazioni. Io sono molto epica e mi piacciono un casino i vostri lavori, e quindi niente, volevo sapere un po' questa frase qua. Cioè, compagna, vuoi la linea? È quello il senso. Sono un po' confusa, sì, aiutatemi. Anche noi. No, chiaramente noi non è che possiamo dare la linea, però no, lo so. Chiaro che il discorso che facciamo di ricostruzione e di narrazione serve a individuare dei momenti, diciamo così, dello sviluppo storico dove sono possibili delle biforcazioni, cioè momenti dove i giochi non erano ancora decisi, dove i destini non erano ancora segnati, dove altri sviluppi erano possibili. Ci sono degli snodi, in realtà in ogni momento un po' si può produrre una biforcazione. Poi c'è questa intuizione della fantascienza che in ogni frazione di secondo si producono infiniti universi paralleli, perché basta che io adesso in questo momento faccia così e riappoggio il bicchiere qui, ma c'è un altro universo parallelo dove è tutto identico tranne che io il bicchiere l'ho messo qua. Ci sono racconti, no? Quindi questa intuizione che in ogni momento è possibile qualunque biforcazione è molto forte dal punto di vista proprio anche di creare mito e trovare narrazioni condivise che possano ispirarci a vivere. La rivoluzione americana è sicuramente uno snodo, la guerra di indipendenza americana è sicuramente uno snodo fondamentale, è uno di quei macro eventi che definiscono gli equilibri per i secoli a venire, e però appunto ex post a noi sembra inevitabile che andasse così, probabilmente non lo era. Bastavano probabilmente alcuni fattori che cambiavano nel momento giusto e lì succedeva tutt'altro. E allora diciamo, quando tutto era ancora possibile, cioè cosa era possibile, cioè qual è il what if, cioè qual è l'ipotesi alternativa controfattuale, se non ci fosse stata la guerra d'indipendenza americana come sarebbero le colonie del Nord America oggi? Chiaramente dire cosa sarebbero oggi è complicatissimo, perché riuscire a prefigurare uno sviluppo alternativo di oltre 200 anni devi tener conto di infinite variabili. E quindi è abbastanza difficile fare questo tipo di operazione. Però se i coloni americani avessero perso quella indipendenza, si accennava anche prima, probabilmente le colonie del Nord America avrebbero vissuto un destino simile a quello del Canada, no? Il Canada è un'ipotesi alternativa concreta, esistente, un'ipotesi controfattuale. Il Canada è un paese capitalista, ha tutti i suoi difetti, cioè, fa parte di del Commonwealth, adesso c'è anche un governo di centrodestra, tutto quello che vuoi, però sicuramente è un paese meno fobico, meno violento, meno ossessionato dalla questione razziale, ad esempio, cioè, che invece è uno dei grandi incubi del vivere americano, no? C'è una governatrice di colore, donna. Sì, il corrispettivo del Presidente della Repubblica è una donna nera in Canada. Prima che ci arrivino gli Stati Uniti e roba di questo tipo, dovrà passare ancora un pezzo, probabilmente. E sicuramente ci sono meno paure, anche perché poi c'è più spazio, perché i canadesi sono pochi e il Canada è gigantesco, no? E quindi c'è anche meno questo respirarsi addosso, questo fiatarsi sul collo a vicenda. L'idea che si potrebbe fare uno pensando, se avesse vinto Re Giorgio anziché George Washington, è possibile in realtà che gli Stati Uniti sarebbero stati qualcosa di più simile al Canada, cioè, quindi non è che ci sarebbe stata la catastrofe, l'apocalisse, cioè, sarebbe semplicemente, si sarebbe incamminata quella zona del Nord America verso un destino più simile a quello del dirimpettaio. Però anche no, perché poi sono talmente tante le variabili, però già il fatto che ci poniamo queste domande, cioè, serve alla nostra immaginazione, alla nostra comprensione delle cose, delle storie, delle persone, della nostra vita. In realtà c'è un luogo comune che dice coi se e coi ma la storia non si fa, invece no, la storia la devi fare coi se e con i ma, cioè, assolutamente, perché i se e i ma ti permettono di aprire lo scrigno, di forzare quel baule dove pensi che sia rinchiusa la storia. La storia è viva e ci attraversa e ci insegna qualcosa, però solo se le sappiamo fare le domande giuste, e per fare le domande giuste sono molto utili i se e i ma, soprattutto i se, cioè, se non fosse successa quella cosa sarebbe successo in alternativa. Questi sono esercizi che chiaramente non è che i nostri siano romanzi, sono romanzi politici, chiaramente, in senso più lato, ecco, non è che scriviamo i romanzi del realismo socialista di Zdanov e roba di questo tipo, perché anzi i romanzi dove ci sono dei lemuri telepatici che amano i film western e i romanzi dove ci sono televisori dotati di anima, chiaramente non stiamo parlando del classico romanzo militante, dell'intellettuale organico, il movimento operaio. Sono romanzi politici perché cercano di porre delle domande, anche a volte irritanti, no? Anche diciamo così, scomode, cercano di proporre dei punti di vista obliqui, inattesi, trasversali, che attraversano anche la tua comprensione della storia e del passato in maniera così repentina, illuminandone degli aspetti che non conoscevi. In questo senso sono politici, però chiaramente non è che sono romanzi a tesi dove ci sono i proletari buoni e i capitalisti cattivi, e rappresentiamo le situazioni e gli equilibri e le forze storiche in campo in maniera un po' più complessa e meno manichea, e non sono romanzi che danno la linea. Non si può chiedere a noi di dare la linea, noi possiamo cercare di porre delle domande e poi di immaginare delle risposte, e già questo processo di domanda e di immaginazione di una possibile risposta è qualcosa di fortemente politico che può servire. Su questa linea domanda, non vi è mai venuta voglia, oppure non vi viene voglia, di scrivere un romanzo non rivolto al passato, ma appunto al futuro, del come sarebbe stato e del come potrebbe essere, sulla linea di quello che avete detto appena adesso? Dunque, c'è uno dei membri del collettivo Wuming, cioè Wuming 5 in particolare, che era già tra l'altro un autore singolo prima di entrare nel collettivo, che in effetti pratica da solista questa strada, insomma, sia con Havana Glam, addirittura il suo primissimo romanzo, Libera Bakuora, ormai introvabile, però Havana Glam e Free Karma Food sono due romanzi che esattamente tentano di fare questo, cioè di spostarsi in avanti nel futuro o in un universo parallelo. In particolare Havana Glam è un universo in cui, insomma, si produce una biforcazione negli anni 40 e 30 anni dopo, negli anni 70, David Bowie, invece di avere un periodo berlinese, ha un periodo cubano e diventa comunista. E questo ha delle ripercussioni che adesso magari non ci credete, ma invece ha delle ripercussioni sulla cultura pop degli anni 70 non indifferenti. Mentre Free Karma Food si svolge in un futuro non nemmeno troppo in là, insomma, qualche decennio, in cui si sono estinte le vacche ed esiste tutto un commercio clandestino di una carne nobile sostitutiva, che è quella umana. Ovviamente però come? C'è stato una grande moria delle vacche. Una citazione colta. Ben sapete. Ovviamente quando lavoriamo invece tutti assieme, è vero, ci voltiamo a guardare indietro. Se non che noi abbiamo un'idea un po' particolare forse del passato. Non ho la pretesa che sia originale, assolutamente, forse solo particolare. Cioè, in realtà non si tratta di guardarsi alle spalle, perché il passato non sta spiattellato dietro di noi fino all'orizzonte, insomma, non si perde all'orizzonte alle nostre spalle. Il passato è sulle nostre spalle, cioè ci pesa addosso. Possiamo parlare appunto della rivoluzione americana, tanto per rimanere a Manituana. Sulla banconota più circolante sul pianeta c'è la faccia di George Washington, come dicevamo. Ancora oggi gli indiani irochesi dal Canada e non solo lottano per il riconoscimento dei loro diritti e la restituzione di alcune terre. Addirittura certi leader portano ancora i cognomi di allora. Il Commonwealth è ancora lì. E i cittadini i canadesi sono cittadini, o meglio sudditi di Sua Maestà Britannica, sono cittadini canadesi e sudditi di Sua Maestà Britannica, anche se la cosa può sembrare grottesca e paradossale. Quindi non è che il passato sia qualche cosa, diciamo, di così arcano e lontano, cioè tutto sommato è qui assolutamente compresente. Se andiamo ancora più indietro, giusto per rendere più scomoda l'operazione, uno potrebbe dire che in effetti i Sumeri sono una civiltà estinta, morta, sepolta, anche se l'abbiamo scavata fuori dai deserti dove oggi peraltro si combatte una guerra. Tuttavia noi calcoliamo gli angoli e il tempo con un sistema sessagesimale a base 60 inventato dai Sumeri, e non mi sembra una caratteristica secondaria della nostra civiltà questa, il sistema di calcolo del tempo, ad esempio. Quindi il nostro modo di guardare indietro è soltanto nostro, di Wuming intendo, è soltanto una comodità. Guardiamo prima al presente. Dicevo all'inizio che le nostre ricerche sono cominciate in Iraq nel 2003, cioè dall'invasione dell'Iraq, e ci rendiamo conto che però il presente è il terreno delle analisi, è il terreno, come dire, del confronto immediato, insomma, è il terreno che forse più del giornalismo, insomma, che della narrativa, almeno per quanto ci riguarda. Riuscire invece a mettere in prospettiva le cose ci rende tutto più chiaro, ecco. Ci dà la possibilità davvero di scavare a fondo. Forse se dovessimo scavare a fondo nell'oggi e nel contemporaneo, davvero ci toccherebbe fare i giornalisti o i reporter, eccetera, che tra l'altro è un mestiere infinitamente più difficile, peraltro, che quello del romanziere, insomma. Quindi ecco, forse non escludiamo di seguire anche delle piste contemporanee, però insomma di sicuro non le contrapponiamo, ecco, a quelle storiche. Per noi è sempre comunque un'indagine sull'oggi, e si tratta solo del punto di visuale che cambia, ma quindi sempre di noi stiamo parlando. Sì, io volevo chiedervi i motivi che, perché insomma avete utilizzato e rielaborato per rendere il gergo dei MOOC di Londra la lingua di Arancia Meccanica, cioè che cosa sì. vi ha portato lì? Sì, che poi non è solo la lingua di Arancia Meccanica, cioè dentro ci sono parole emiliane, cioè c'è stato tutto un frullato. Allora, spieghiamo per chi non ha letto, nella seconda parte di Manituana tutta l'azione si svolge a Londra, si sposta da questa parte dell'Atlantico, nella Londra del 1775-76 noi abbiamo fatto agire per le strade una gang criminale che si ispira per l'immaginario, per i costumi, eccetera, eccetera, a gli indiani irochesi, ai Mohawk. In realtà è esistita una sessantina d'anni prima una banda di teppisti, in realtà forse giovani aristocratici annoiati, che si erano ribattezzati Mohawk Club e che aggredivano i passanti e le carrozze di notte, sottoponendo questi malcapitati a delle angherie e delle vere e proprie forme di tortura che loro dicevano essere ispirate alle torture rituali indiane. In realtà non era vero un cazzo, però era gente che aveva un'idea così completamente mitica degli indiani delle colonie, e che per noia e perché erano molto in voga in realtà nella cultura europea gli indiani, avevano deciso di fare questa cosa. In realtà non si sa se sia esistita davvero o se sia stata una specie di burla del giornale The Spectator. A noi, come uniche fonti dell'attività di questa banda, si parla del 1712, abbiamo gli articoli dei giornali dell'epoca, soprattutto The Spectator, che fu il primo a parlarne, pubblicando delle lettere di lettori che asserivano di essere stati aggrediti da questi Mohawk, in realtà inglesi. E poi abbiamo dei riferimenti a questi Mohawk nel diario di Jonathan Swift, che però dice di temere per la propria incolumità, perché questi Mohawk gliel'hanno giurata e lo vogliono aggredire, cioè gli vogliono fare un agguato mentre torna a casa la sera, però dice anche che gliel'hanno detto i giornalisti di The Spectator. Quindi l'unica fonte che abbiamo sono questi qua, e può darsi che sia una balla madornale, perché all'epoca poi, non solo all'epoca, comunque i giornali pubblicavano molte cazzate, molte balle, per titillare. Tanto titillare, per tornare al discorso di prima. Per titillare, diciamo così, la curiosità morbosa dei lettori, e quindi può darsi sia una balla. Noi una sessantina d'anni dopo abbiamo immaginato degli epigoni, degli emuli di questa banda, e li facciamo muovere nella Londra di Giorgio III, mentre nel 1712 era la Londra della regina Anna. Avevamo di fronte una sfida linguistica nell'ambientare quella parte a Londra, perché volevamo rendere, scrivendo chiaramente in italiano, che è la lingua in cui ci esprimiamo, rendere la complessità del slang di strada dei proletari di Londra, e far vedere anche il divario enorme dell'inglese parlato da una classe sociale all'altra. Quella inglese ancora oggi è una società molto molto classista, in maniera molto rigida. La classe sociale di appartenenza è più un dato culturale che sociologico ed economico. Si dice io sono working class, tu sei middle class, quello è upper class, è qualcosa di ontologico, quasi di cosmogonico, no? E la working class ha una sua cultura particolare, che è quella del pub, è quella della partita di calcio, quella eccetera eccetera, e ha un suo gergo particolare, un suo modo di storpiare l'inglese particolare in ogni zona del Regno Unito, ma soprattutto nella parte di Londra che va dal centro all'East End c'è questo famoso essere cockney, che significa essere nativi di quella parte di Londra, ma significa anche parlare un gergo particolare. Questo gergo particolare è fatto di parole in rima che sostituiscono cioè praticamente si usa per dire una parola, se ne usa un'altra che fa rima con quella. Quindi un non iniziato non capisce assolutamente nulla di quello che viene detto. Un esempio che noi facciamo spesso, siccome il Cockney Rhyming Slang esiste anche oggi, anzi si arricchisce continuamente di parole e di modi di dire, voi sapete che Gianluca Vialli andò a giocare in Inghilterra per diversi anni nel Chelsea ed era anche famoso perché compariva nelle cronache mondane, eccetera. Ora la pronuncia del suo nome da parte degli inglesi è Gianluca Vialli, che fa rima con Charlie, che vuol dire cocaina. Non so se sia un riferimento a un suo possibile uso della sostanza, ma questa non è particolarmente importante. Che loro, per dire, mi sono pippato una riga di Gianluca Vialli, dicono, cioè, Gianluca Vialli vuol dire cocaina. Non solo, anche Salvador Dali, che come pronuncia loro Salvador Dalì, Salvador Dali, comunque i nomi che finiscono per Charlie. Il mondo poi degli argot, dei gerghi, degli slang di strada, del modo di parlare ad esempio della malavita, anche in italiano è esistito a Milano negli anni 50 un gergo della malavita barocchissimo, sono dei veri universi linguistici che è difficile traslare da una lingua all'altra. Noi avevamo a disposizione dei glossari di slang londinese del Settecento, ma non volevamo fare un'operazione di mera trasposizione di quelle parole in italiano, perché sarebbe venuta brutta. Invece abbiamo deciso di reinventare una lingua che all'interno dei registri della lingua italiana rendesse conto di tutte queste differenze, complessità, divari. No. Abbiamo trovato un primo bozzo di risposta nelle traduzioni dei gialli di un inglese che si chiama Bruce Alexander, che è appena morto, tra l'altro è morto da poco, che ambienta i suoi romanzi proprio nella Londra degli anni 70 e 80 del Settecento, e il detective che risolve i casi è il giudice Fielding, che era il fratello di Fielding lo scrittore, l'autore di romanzi come Tom Jones, eccetera. Compaiono molti sottoproletari, miserabili e pezzenti nei suoi romanzi, e lui li fa parlare in uno slang particolare che il traduttore italiano ha reso usando il gergo della malavita nostrana, con anche vari localismi, dialettalismi. Ha detto: questa può essere l'idea. C'era un'assonanza tra quel modo di parlare lì e la traduzione italiana di Arancia Meccanica. Arancia Meccanica esce per l'Einaudi nel 68 in italiano con il titolo Un'arancia a orologeria, che poi a rigore sarebbe la vera traduzione, dopo è il film che chiamandosi Arancia Meccanica ribattezza tutto, però sarebbe Un'arancia pronta a esplodere, Un'arancia a orologeria, che è una specie di paradosso, di ossimoro che Burgess fa nel titolo per far vedere la differenza tra gli istinti reali, naturali, spontanei, violenti di Alex e invece gli istinti indotti con la tecnologia attraverso la cura Lodovico, che invece sono totalmente artificiali. La traduttrice di Arancia Meccanica ha dovuto reinventare la lingua di Burgess, che nell'originale è un inglese proletario con molte parole in russo, perché la società in cui si svolge è una specie di sintesi tra la società dell'Ovest e quella dell'Est. Infatti anche nel film lui si rivolge al suo tutor chiamandolo compagno sir, cioè quindi mettendo assieme le due cose, una società capitalista, socialismo reale, russo-americano, è un mescolone dei due modelli che esistevano negli anni 60 quando Burgess ha scritto questa roba. Invece che scrivere una cosa in italiano registro medio, però ogni tanto con qualche parola in russo, che sarebbe stato un modo molto povero di tradurre quella lingua che invece è molto ricca, la traduttrice Floriana Bossi ha alterato anche il registro dell'italiano cercando di ricreare in italiano l'effetto straniante che c'è nell'originale inglese. Operazione che gli è venuta molto bene, perché il linguaggio di Arancia Meccanica, poi anche riproposto pari pari com'era nel film, in Italia è diventato uno degli elementi dell'immaginario. E allora abbiamo detto, facciamo questa operazione qui, cioè prendiamo spunto da lei, anzi rendiamole proprio omaggio, nel senso che ci sono anche proprio delle locuzioni, dei modi di dire che abbiamo preso paro paro da Arancia Meccanica, però mettiamoci del nostro, ci mettiamo degli emilianismi, delle cose prese dalla nostra coinè linguistica, dialettale, gergale, e infatti ci sono delle parole particolari che ci sono dentro, che vengono di pari, proprio di pacca, vengono dal bolognese e dal ferrarese. C'è una bestemmia, Dio scannato, che è tipica delle nostre parti. Tra l'altro, cioè, quando stavamo correggendo le bozze, mio fratello la sfogliò e disse: bene, ma te mi disdioscanà, cos'è questa roba, no? In dialetto, perché è straniante per una delle nostre parti vedere che nella Londra del Settecento dicono Dio scannato. Ecco, abbiamo voluto fare operazioni di questo tipo. E ha colpito molto questo impasto linguistico che abbiamo creato, rimane molto impresso, devo dire, perché cioè, moltissimi ci hanno chiesto, e nel livello 2 c'è proprio tutta una discussione addirittura filologica su questo linguaggio che abbiamo messo in bocca a questi scoppiati, che è poi l'effetto che volevamo ottenere. Volevamo che fosse in qualche modo memorabile come tipo di operazione linguistica e che non fosse un modo povero invece di traslare uno slang dall'inglese all'italiano. Ci voleva una percentuale di invenzione, doveva essere un linguaggio poi molto immaginifico e poi doveva far ridere. Alcuni hanno detto che certe parti sono incomprensibili. È vero, ci sono soprattutto le parti dove il punto di vista è quello dell'oste, della taverna in cui si riunisce questa banda, che si chiama Occhio Solo Fred, che addirittura parla una versione più densa di questo linguaggio, perché lui è un vecchio e quindi abbiamo immaginato questo è addirittura lo slang della generazione o di due generazioni precedenti a questo, quindi addirittura più convoluto, più criptico, eccetera. Però in realtà è incomprensibile letto frase per frase, ma andando avanti si capisce perfettamente quello che succede, nel senso è come i libri di Camilleri, no? I libri di Camilleri sono scritti non è siciliano e non è nemmeno italiano, è un linguaggio artificiale creato da Camilleri prendendo dall'italiano e dal dialetto agrigentino, perché Vigata, questa città immaginaria di Camilleri, altro non è che Porto Empedocle, cioè la città nativa di Camilleri, che è in provincia di Agrigento. Quindi lui ha creato questo linguaggio ed effettivamente alcune parole non hanno alcuna somiglianza con il loro corrispettivo italiano. Uno legge e dice: ma che significa? Ma che significa? Però poi vai avanti e dopo un po' scopri che sai cosa significano, e non sapresti ricostruire l'esatto momento in cui ti sei reso conto di cosa significano. Semplicemente, cioè, lavora sull'inconscio quel tipo di linguaggio, tu man mano che vai avanti, trascinato dall'azione, impari queste nuove parole senza nemmeno rendertene conto, e dopo saprai cosa vogliono dire. Poi magari, finito il libro, io ti chiedo: ma cosa vuol dire tagliare? Cosa vuol dire cazzuna? E tu non ti ricordi neanche più, ma nel momento in cui le leggi nel libro sai esattamente cosa significano, perché grazie al contesto ricostruisci. Ed è un po' quello che succede anche con questo linguaggio che abbiamo messo in bocca ai mock, cioè leggendo uno dice: madonna, è difficile sta roba qua, però poi andando avanti in realtà capisce anche le battute, gli effetti comici, le allusioni, i doppi sensi addirittura, e quindi cioè, vuol dire che in qualche modo funziona. Le vostre opere collettive sono state tradotte in altre lingue, più in particolare Manituana è stato o verrà tradotto in inglese? Sto pensando a un riscontro del mercato sia intellettuale che editoriale statunitense. Dunque, all'estero, diciamo, i libri tradotti all'estero sono Eccoli. Q e 54, in diverse lingue, tra cui l'inglese. E stanno per essere tradotti stanno per uscire, sono in corso di traduzione due solisti in Francia. È molto probabile che anche Manituana trovi a breve la via della pubblicazione in Francia. Sull'Inghilterra diciamo che non c'è ancora qualcosa di definito. Però insomma è anche presto, perché il libro è uscito da poco più di 2 mesi, quindi di solito è sempre la fiera di Francoforte a ottobre in cui si fa il mercato delle vacche. E Devo dire che però noi abbiamo siamo un po' perplessi rispetto ai destini di Manituana nel mondo anglosassone, ovvero non sappiamo come la potrebbero prendere. Perché? Dall'altra parte dell'Atlantico tira una brutta aria e insomma andargli a raccontare la storia che erano marci patocchi fin dall'inizio, sì, insomma, dire che non è, fossimo inglesi, fossimo anglosassoni, parlassimo inglese, ma veniamo veramente noi sì dalla colonia più sconfondata dell'impero, e quindi non è detto che la prendano bene. Questo in un certo senso può valere anche per gli inglesi, nel senso che raccontiamo anche la loro storia, raccontiamo la Londra appunto del Settecento, e non è semplice forare il mercato anglosassone, fare breccia nel mercato anglosassone, anche se Q e 54 sono andati bene in Inghilterra, però sono stati abbastanza eccezionali come casi. Per intenderci, Q è entrato nella selezione finale, nella cinquina finale del premio letterario del Guardian. Non ha vinto, chiaramente, però era la prima volta nella storia del premio letterario che un romanzo non scritto in inglese entrava nella selezione finale, cioè non era mai successo. Questo ci dice qualcosa, cioè ci dice che in effetti un mercato editoriale che ha a disposizione più o meno tutto il pianeta, o quasi, comunque una lingua che è la lingua dell'impero ancora oggi, tutto sommato non ha bisogno delle altre lingue, o comunque devi farti notare davvero molto perché vengano a chiedere di te e a tradurti. Peraltro le traduzioni inglesi dei nostri romanzi precedenti sono a nostro avviso molto molto buone, anzi Q forse è quasi più bello in inglese che in italiano, no davvero, non è una battuta. Quindi siamo in attesa, nel senso che insomma ci sono delle interlocuzioni in corso, però siamo in attesa perché non siamo convinti che la cosa andrà liscia, cioè che un italiano con un nome cinese vada lì a raccontare la storia patria altrui, ma non lo so come la prenderanno, ecco. No, cioè c'è il riscontro di un primo lettore, abbiamo al momento il riscontro di un primo lettore britannico che è molto positivo. Lettore di casa editrice. Un lettore, diciamo, di professione, ecco. Però non siamo oltre quello al momento. Quello che invece speriamo di riuscire ad avere prossimamente è un'interfaccia in inglese del sito, questo sì. Sì. Abbiamo già pronta quella in spagnolo, bisogna trovare il tempo e il modo di metterla su, e sono un paio di persone al lavoro sulle traduzioni per l'inglese, perché quello sì, quello comunque è molto importante. No, per dire, volevo far vedere questo, che in Inghilterra noi con Q siamo entrati nel costume nazionale. Questa è una trasmissione un po' simile alle trasmissioni della Jalapas Band sulla TV italiana, una trasmissione satirica sul calcio, andata in onda nel 2004, tutta dedicata a noi, nel senso al fatto che Q è firmato col nome di un loro calciatore, e c'è anche lui ospite a un certo punto che legge in italiano delle frasi da libri firmati Luther Blissett, e poi tutti cominciano a dire io sono Luther Blissett, io sono Luther Blissett, io sono Luther Blissett, ed è per noi è stata una grande soddisfazione. Guardate chi l'ha scritto, dice. Guardate chi l'ha scritto, Luther Blissett, poi a un certo punto arriva anche, questa è la cosa, mi inchino a Luther Blissett, sta raccontando un po' di cose, mostra adesivi, CD, poi arriva il vero Luther Blissett, che è qua, eccolo qua. Allora. You know what time it is, don't you? Do you know what time it is? It's time for Phoenix from the Flames, right? Deve essere davvero demenziale questa trasmissione. Sì, sì, no, dai frammenti. Qui dice: tu sei stato il primo calciatore nero a fare un gol in una partita della nazionale inglese. Ecco. Addirittura hai fatto una tripletta contro il Lussemburgo. Questo è il primo, tra l'altro, non è sto gran gol. Stava per mandarla fuori. Porta anche vuota. Lì. E praticamente loro rifanno. Com'è che c'è tutto sto Larsen nel mio microfono? Sento. Lo rifanno con lui il gol in questo campo di calcetto. E poi lui dice: sì, questa è stata una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita. A un certo punto tirerà fuori il libro Q il tipo e dirà: ma come è questa? E lì parte la gag. E poi si è stronzato. Questo è l'umorismo inglese. Pure pochi minuti, lo so. Ron, you can't come back on the telly. Questo qui era un commentatore sportivo tipo Pizzul da noi, che poi ha fondato un partito di estrema destra, anti-europeista, e così. Ecco. Questi sono gli altri due gol fatti in quella partita, poi contro il Lussemburgo, è grande impresa, veramente. Comunque adesso... Ecco qua, e gli mostra Q e gli dice: ma questo? E gli legge una delle prime frasi del prologo, che è la moneta del regno dei folli, eccetera, the coin of the kingdom of the mad, eccetera. Lui dice: no, è un movimento, Luther Blissett, e spiega chi siamo, chi eravamo. Poi prende fuori un libro nostro, Totò Peppino e la guerra psichica, e ne legge una parte in italiano. Alza il volume. Chiunque può essere Luther Blissett. Qua è tutto alto. Adattando il nome Luther Blissett. Their slogan is Essere Luther Blissett. Right. Shall we do my goal now? All right then. Dice: well, adesso che facciamo? Dice, adesso rifanno il gol. You be Luther Blissett. No, play Martin Tyler. Okay. Adesso rifanno il gol. Tanto questi sono sempre quei due con le parrucche. E lui arriva. E? No, I'm Luther. No, io sono Luther Blissett. Io sono Luther Blissett. Io sono Luther Blissett. Tutto così. Vedi che il ventrino qua. I'm Luther Blissett. E poi la trasmissione continua, eccetera. Comunque... Oggi allena lo York, tipo in serie C, inglese. Oggi allena lo York. Oh, altre domande? Ma vorremmo. Però... Lui l'ha presa bene, visto? Sì. Mi sembra l'abbia presa bene. Però che gli dici? E infatti, e appunto, come dice lui, adesso che facciamo? Sì, cioè, se mi dava uno schiaffo. Giusto una curiosità sui Creative Commons, cioè come sono percepiti da chi vi legge, da magari altri autori o musicisti con cui ne avete parlato, e come sono stati percepiti dalle case editrici, dall'Einaudi in questo caso. Allora, un attimo di spiegazione. Creative Commons è quel gruppo di licenze di proprietà intellettuale basate sul principio alcuni diritti riservati, cioè quindi non la solita dicitura tutti i diritti riservati, per cui non si può copiare, non si può diffondere, non si può, eccetera eccetera. Alcuni diritti riservati significa che volta per volta l'autore decide quali utilizzi vuole autorizzare, quali usi vuole autorizzare della sua opera. Nei nostri libri, nella dicitura iniziale, c'è scritto che possono essere riprodotti parzialmente o totalmente e anche diffusi per via telematica, purché venga riprodotta questa dicitura e purché non sia a scopo di lucro, a scopo commerciale. Tutti i nostri libri sono scaricabili. Sì, fai un piccolo inciso, intanto io vado sulla pagina. Tutti i nostri libri sono scaricabili, purtroppo non ancora Manituan. Sì, perché c'è un problema che abbiamo avuto anche per gli altri romanzi, e cioè quando noi andiamo a fare l'ultimissima revisione di bozze, è poi quella la copia, diciamo, che va in stampa, sulla quale si fa l'ultima impaginazione, e a noi quella rimane. In sostanza, dobbiamo trovare il tempo, e purtroppo non è semplice con i menage anche familiari che abbiamo da un po' di tempo in qua, dobbiamo trovare il tempo di fare un'ultima revisione bozza, cioè di inserire sul file che abbiamo a disposizione, il penultimo, le correzioni su carta dell'ultima, perché è brutto oggettivamente mettere online un romanzo coi refusi, con delle cose che sono state addirittura cambiate, cioè per esempio delle intere frasi che sono state tolte in extremis o aggiunte a 5 minuti dall'andare in stampa. Purtroppo per Manituana questo è stato un lavoro particolarmente oneroso, ce l'abbiamo chiuso tardi rispetto ai nostri tempi. Quindi c'è sempre questa cosa da fare, che bisogna farla, e bisogna trovare il tempo di farla. Uno di noi deve costringersi a trovare il tempo per riuscire a mettere online una roba, insomma, che corrisponda al cartaceo, perché dobbiamo anche rimpaginarlo. Si tratta anche poi di dare, esatto, un'impaginazione accettabile con le capitolazioni, eccetera, eccetera. Questo qui è tutto lavoro che fa l'Einaudi, e che poi impagina sulla griglia Einaudi, sulla quale invece c'è un copyright. Cioè noi non possiamo farci mandare il file dalla casa editrice del libro impaginato, non so se mi spiego. Noi sul testo dobbiamo lavorare, e quindi c'è un surplus di lavoro, ovviamente non retribuito, che bisogna fare, e lo faremo verosimilmente prima dell'estate, insomma entro questo mese cerchiamo di farlo, e quindi anche Manituana sarà scaricabile. Questa è la sezione del nostro sito dove sono scaricabili tutti i nostri libri, dove speriamo il prima possibile sarà scaricabile anche Manituana. Noi non abbiamo più particolari problemi con i nostri editori nell'imporre questa condizione, perché ormai è vissuto come un automatismo. In più non siamo nemmeno i soli ormai che lo fanno. Quando è uscito Q era un primo caso assoluto, soprattutto in Italia, però in realtà, cioè anche a livello planetario era una mossa comunque molto, molto rara. Adesso ci sono altri scrittori che mettono questa dicitura: si consente la riproduzione parziale o totale dell'opera e la sua diffusione per via telematica, purché non a scopi commerciali e a condizione che questa dicitura sia riprodotta. Per gli stessi Kaizen che vengono qui domani, ma addirittura Moni Ovadia, nel suo ultimo libro uscito per Stile Libero, Moni Ovadia ha messo la stessa clausola identica nostra. Però all'inizio erano un po' perplessi i nostri editori, perché appunto era un unicum e non c'era una tradizione a riguardo. Adesso non è che ci sia questa grande tradizione adesso, però c'è un percorso avviato, e poi sembrava un salto nel buio, sembrava che dal momento in cui mettevamo questa dicitura sarebbero pullulate edizioni pirata, che poi in realtà è un'altra cosa. L'edizione pirata viene fatta a scopo di lucro, tipo quelle fatte dalla Camorra, no? E vengono fatte per essere vendute, quindi a scopo di lucro. Comunque rimane illegale quella cosa lì, perché uno può liberamente riprodurre i nostri libri a condizione che però li diffonda gratuitamente, cioè non può fare un'altra edizione lui che vende. Questa cosa è assolutamente esclusa. Abbiamo fatto alcune riunioni anche lì con le Einaudi, con il loro ufficio legale, per trovare una dicitura che accontentasse tutte le parti in causa, e con l'inserzione di purché non a scopi commerciali ci siamo tutelati noi e anche le Einaudi. E a condizione che questa dicitura sia riprodotta, significa che comunque anche le copie che girano portano il copyright delle Einaudi, e quindi siamo riusciti a ottenere il risultato senza scontentare nessuno, con una mediazione al rialzo anziché al ribasso. da allora tutti i nostri libri, ma proprio tutti, hanno questo tipo di dicitura. A volte può capitare che dove ad esempio non siamo in grado di controllare direttamente, tipo in altri paesi di cui non sappiamo la lingua o con cui i contatti con l'editore sono meno diretti eccetera, succede che dei nostri libri escano senza quella dicitura. Di solito noi ci facciamo vivi e gliela facciamo reinserire nella prima di stampa utile. Questo è successo ad esempio con l'edizione polacca di Q, la prima edizione in Polonia di Q era uscita senza la dicitura, al che abbiamo scritto un'email all'editore spiegandogli che c'era stata questa svista, e l'editore ha detto che probabilmente non aveva capito bene lui, leggendo il contratto, che cosa gli si chiedeva, e quindi nella prima ristampa utile l'ha reinserita. E invece in Russia è uscito anche lì senza la dicitura, però l'industria editoriale russa è una galassia insondabile, non sappiamo neanche bene chi contattare. La Russia in generale. La Russia in generale in questo momento è una galassia abbastanza insondabile, quindi ha detto oh, pazienza, in Russia sarà tanto lì, poi le edizioni pirate come la Camorra napoletana anche lì ne gireranno a bizzeffe. Non ci aspettiamo certo di vedere diritti d'autore dalla Russia, credo che nessun nostro collega si sia mai atteso di vedere diritti d'autore dalle traduzioni russe dei loro libri. Addirittura una volta, prima del crollo dell'URSS, loro tenevano da parte le royalties dei libri di autori stranieri, che venivano tradotti in russo, però l'unico modo per incassarli era di andare là a prenderli proprio in contanti. Quindi molti autori giudicavano ad esempio che la cifra era minore del viaggio in aereo, e quindi li lasciavano là. L'editoria sovietica ha prosperato su queste royalties mai prese da autori occidentali. Adesso poi è anche lì un mistero bene come, con chi dovremmo avere a che fare. E poi un'altra cosa che non sappiamo se ci sia o no la dicitura è l'edizione coreana di Q, perché la dicitura è in coreano e quindi noi non abbiamo la minima idea di cosa ci sia scritto. Cioè lì c'è scritto copyright eccetera, poi sotto ci sono delle frasi in coreano, però non sappiamo se sia la dicitura corretta, se sia tradotta bene, se ci sia scritto tutt'altro. Quella è una cosa che non abbiamo modo di appurare. Se uscirà ad esempio in Pakistan, lì sarà facile, basta che esco di casa, vado dal negoziante di fronte, gli dico cosa c'è scritto qua e lui me la traduce, però purtroppo non conosco coreani e quindi questo rimarrà un mistero. Però diciamo che ci siamo tutelati con questa scritta qui che dice: i nostri libri sono tradotti in molte lingue che non parliamo e pubblicati in diverse parti del mondo. È molto difficile riuscire a controllare tutto. Se l'edizione del vostro paese non riporta la suddetta dicitura, significa che siete stati ingannati, siete stati fregati, siete stati abbindolati, truffati, menati per il naso, turlupinati. Questa è una frase di Malcolm X. Vi preghiamo di sporgere un reclamo presso l'editore e mandarcene copia con una traduzione se possibile. Questa dicitura qui, questo avviso è anche in inglese e in spagnolo, e quindi insomma almeno abbiamo messo le mani avanti, ecco. Così, se posso, a grandi linee, senza entrare nel particolare, poi probabilmente nel livello 2, nelle discussioni che avete con i lettori eccetera, per quel che riguarda la creazione dei libri posso andare a curiosare, ma visto che appunto i vostri romanzi storici eccetera, volevo sapere un po' come era andare a indagare nelle pieghe della storia, dove si beccano i documenti, come fate comunque a partire per creare appunto un nuovo libro, andare a curiosare in quello che appunto non viene detto, non viene trovato nei manuali o riportato dagli organi ufficiali eccetera. E poi anche scrivere a più mani comporta comunque dei compromessi, perché penso che tu Roberto o tu Federico magari, nel senso, il romanzo andava in una direzione, per quell'altro andava in un'altra, quindi queste due cose, quali sono le nel senso le fonti, come si fa ad andare a grandi linee, e se comporta dei sacrifici, se a volte è frustrante oppure se comunque è sempre un piacere costruire un romanzo a più mani. Comincio dalla fine, cioè dalla scrittura collettiva. Nasciamo come autori collettivi e poi qualcuno di noi, insomma, anche per non imporre le proprie passioni e ricerche personali a tutti gli altri, appunto ha pubblicato anche romanzi solisti, che però sono romanzi per chi li ha letti non lo saprà, insomma, più sperimentali, tra virgolette, più particolari, ecco. La sperimentazione collettiva è sempre un'altra cosa e secondo noi ha un valore aggiunto, appunto, perché davvero più teste che lavorano sul testo sono un punto di forza. Per noi, non è detto che sia così per tutti, ovviamente, probabilmente chi nasce come scrittore solista e si ferra su un metodo di lavoro personale, privato, farà anche molta fatica probabilmente a entrare poi eventualmente in collaborazione con, in sinergia con altri scrittori. Noi abbiamo il grosso vantaggio di avere cominciato da subito assieme, di avere approcciato la narrativa come le altre cose che già facevamo nella vita in modo collettivo, quindi insomma dalla partecipazione a situazioni tipo questa, per intenderci, o trasmissioni radiofoniche, fanzine, eccetera, comunque erano sempre ambiti collettivi e gestiti da collettivi, quindi, come dire, noi abbiamo soltanto portato dentro la narrativa un modo di vivere, un modo di lavorare precedentemente conosciuto e non strano, ecco, per noi è stato naturale farlo. I compromessi che noi facciamo non sono mai al ribasso, cioè non sono mediazioni. Lavoriamo tutti e cinque, appunto, e siccome il parere di tutti e cinque vale quando quello di chiunque vale quanto gli altri, si discute davvero come facevano appunto gli irochesi nei concili fino all'unanimità. Poi appunto, come gli irochesi, se poi uno c'ha voglia invece per i fatti suoi di portarsi avanti altri percorsi, è liberissimo di farlo, cioè il collettivo non è sovietico da questo, nel senso negativo del termine, ecco, è sovietico solo nel senso positivo, non ci sono costrizioni, siamo convinti di questo, è chiaro che devi essere convinto che questa sia una potenzialità e non un limite, appunto poterti avvalere di una mediazione che è al rialzo e non al ribasso, cioè non una mediazione parlamentare, insomma, ma una mediazione creativa, quindi una partecipazione collettiva alla creazione della trama e anche della pagina, perché poi è chiaro che è un singolo che tenterà la prima stesura del capitolo sulla base delle riunioni fatte, ma dopo sono tutti che ci mettono sopra le mani e molto spesso i capitoli vengono anche stravolti, in altri casi invece appena ritoccati, ovviamente dipende da caso a caso. Quello che precede sempre la fase della stesura è una serrata discussione, questo è chiaro, che parte dai massimi sistemi ma poi arriva fino davvero al particolare della singola scena, insomma un po' come scrivere la sceneggiatura prima di girare il film, ecco. Il lavoro si divide poi in due fasi. Per quanto riguarda le fonti invece, noi ci avvaliamo moltissimo della rete quando è possibile, quando le fonti ci sono, e ovviamente di tutta la letteratura possibile e immaginabile. Questo cambia da libro a libro, da argomento a argomento. Ad esempio, per scrivere Q abbiamo avuto la grossa fortuna di avere a Bologna una libreria di scienze religiose in cui abbiamo trascorso un periodo che io ricordo come infinito, ma dovevano essere stati svariati mesi, ecco, non saprei quantificare. Ci avevamo tipo piantato le tende comunque, e lì c'erano proprio i libri su carta e si è trattato di leggere. Per quanto riguarda 54, addirittura andammo all'emeroteca a vederci i microfilm dei giornali degli anni 50, Il Resto del Carlino, L'Unità, reperti storici davvero. E rispetto a Manituana il lavoro è stato facilitato dal fatto che, spostandoci nell'area anglosassone, lì c'è una grande cultura davvero della pubblicità delle fonti, rendere pubbliche le fonti. Diciamo spesso che probabilmente se avessimo dovuto scrivere un romanzo sul Risorgimento italiano avremmo avuto più difficoltà a rintracciare le fonti. avremmo dovuto chiedere malleverie a qualche docente per entrare in un archivio di una facoltà o un archivio storico, rintracciare magari un vecchio custode decrepito che con una chiave ci apriva un sotterraneo dentro il quale trovare dei volumi. Basti dire che all'epoca in cui stavamo scrivendo Q, uno dei nostri soci dovette recarsi a Roma, al Vaticano, a incontrare un'eminenza, insomma, un porporato, ecco, per chiedergli l'accesso agli archivi vaticani, e la risposta fu che avremmo dovuto scrivere una lettera al padre bibliotecario motivando, insomma, profondamente, eccetera eccetera. Abbiamo lasciato perdere, ovviamente, ci siamo mossi in altro modo. Questo per dire, ecco, che come funzionano le cose in Italia. Se ti sposti nell'area anglosassone non è così. Soprattutto poi per quanto riguarda la storia americana, la fortuna grossa è stata che loro, avendo una storia corta, l'hanno mappata giorno per giorno, a livello quasi maniacale. Ci sono ancora gli eredi dei tizi, alcuni dei tizi che popolano le pagine di Manituane, insomma, che ancora litigano per degli appezzamenti di terra dei loro trisavoli in qualche ex colonia. E c'è tutta una cultura di reenactors, una subcultura di reenactors, chiamatela come volete, cioè gente che si traveste in costume d'epoca e diciamo in persona mette in scena le battaglie storiche della guerra di indipendenza o della guerra di secessione, eccetera eccetera, a seconda dei... Tra l'altro ieri sera nella puntata di CSI Las Vegas c'era proprio un caso che si svolgeva tra un omicidio durante la ricostruzione della battaglia di Gettysburg, ma ci sono appunto anche questi infottatissimi sulla guerra di indipendenza. Quindi è tutto molto alla luce del sole. Per quanto riguarda Manituana abbiamo avuto il problema opposto a quello dell'archivio vaticano, cioè che l'archivio era sterminato, era infinito. A un certo punto, entrati ormai in un loop di documentazione davvero maniacale, ci siamo detti basta, abbiamo stoppato, abbiamo detto buona, facciamo i romanzieri e da qui inventiamo, perché gli ultimi libri li abbiamo ordinati penso a 2 mesi dalla consegna, cioè eravamo ancora lì a documentarci per riempire dei buchi. Ma poi secondo me sono anche delle ossessioni che ti prendono dopo troppo tempo che stai su un testo, e quindi abbiamo detto ok, basta, il resto lo colmiamo con la fiction. Quindi le fonti, insomma, si trovano, appunto, in certi casi devi sbatterti molto di più, in certi casi riesci addirittura hai il problema opposto. Ripeto, noi la grossa fortuna che abbiamo è che, insomma, laddove lo storico si deve fermare può cominciare il nostro lavoro. Ecco, lo storico, più che fare delle ipotesi quando non trova le prove, lo può fare, insomma. Noi invece lì ci possiamo sbizzarrire, ecco. Se non ci sono altre domande, direi che la chiudiamo qui. Vabbè, tanto allora metto della musica Moog. Grazie.